This holiday season, you know what I have on my wish list? Adventure. That's why I got a new Honda during the Happy Honda Days sales event. They have a whole lineup of rugged, all-wheel drive SUVs, CR-V, Pilot, Passport. But at the end of the day, I drove off in a new HR-V with a bunch of safety features. And best of all, I got it on clearance. So don't just sit around knitting an ugly holiday sweater. See your local Honda dealer for Happy Honda Days clearance pricing today. Dagli studi fuori norma di Italian Podcast Network, con le avveniristiche attrezzature scartate dal terzo mondo, condotto da un coraggioso manipolo di brutta gente e col fondamentale patrocinio di Morgan, va ora in onda Dietrologia Videoludica. Nuova sigla, nuovo format, nuovo tutto. Dietrologia Videoludica ritorna con questo nuovo episodio. Avevo detto che non ci sarei più stato, però in realtà questo è un episodio speciale che richiede insomma un po' di coordinamento, e quindi per dare una mano a tutti torno in questa mia veste di presentatore in Dietrologia Videoludica, che esce con questo speciale sulla Games Week 2013, alla quale noi con la banda di Archeologia Videoludica, Dietrologia Videoludica e Archeologia Informatica siamo andati a fare danni. Come funzionerà questo particolare episodio? È diviso praticamente in tre tronconi. Il primo è questa parte di introduzione che farò io insieme al mio amicone simpaticone Roberto Bertoni. Ciao Bertoni. Ciao carissimo, tutto bene? Tutto a posto, tutto a posto. Poi ci sarà una seconda parte e una terza parte, ovviamente, che poi vabbè, vi spiegherò man mano, si avvicenderanno ovviamente i vari team delle varie trasmissioni per questa specie di crossover, e per avvantaggiare praticamente l'avvicendamento di tutte queste persone ci saranno dei brani all'interno di questo speciale podcast, e sono tutti brani ovviamente in qualche maniera attinta. Purtroppo è una necessità tecnica, quindi per chi dice no i brani no che palle, va attaccate. Allora è un crossover, però la conduzione la fa Dietrologia Videoludica, quindi www.dietrologiavideoludica.it, ci trovate su Facebook e G+, cercandoci ovviamente Dietrologia Videoludica. dietrologiavideoludica@gmail.com è la nostra mail, e Dietrologia Videoludo è il nostro Twitter, chiaramente www.italianpodcastnetwork. Ricordiamo comunque che cercate anche su iTunes Dietrologia Videoludica, potete cercare anche Archeologia Videoludica e Archeologia Informatica, che sono ovviamente il nostro trittico di trasmissioni. Trittico di trasmissioni che tra l'altro incominceranno ad espandersi. È vero che già con Calavera Caffè in teoria non siamo più un trittico, però è vero pure che Calavera Caffè non è proprio una trasmissione puramente IPN. Invece trasmissione puramente IPN sarà L'Occhio del Beholder, che uscirà proprio tra qualche settimana, ed è il nuovo podcast completamente dedicato ai videogiochi di ruolo nella loro ampiezza, nella loro insomma storia, e vabbè, comunque è ideato e condotto da Giuseppe Saso, quindi insomma anche da uno che ne sa. Grande è stata la nostra soddisfazione invece per la diretta che abbiamo fatto di Halloween, che ha riscosso buon successo, ottima partecipazione di pubblico. Questa trasmissione verrà poi rieditata e reinserita successivamente a questo episodio qui nel feed di Dietrologia Videoludica. Poi proprio sempre in questo periodo qui sta per uscire chiaramente anche uno speciale di Archeologia Informatica sull'evento Brusaporto Retro Computing 2013. Allora Roberto, detta tutta questa pastrana di robe, siamo andati alla sta Games Week, che per noi era una cosa mitologica, non per te che tu sei giornalista avvezzo oramai, super skillato, ma noi siamo dei pipponi cialtroni, e quindi per noi è stata una grande motivazione. emozione. Poi racconteremo nella terza parte, ovviamente, anche parte dell'avventura che abbiamo dovuto affrontare per questo viaggio della speranza. Ma detto questo, veniamo appunto proprio a Roberto. Che cos'è, insomma, sta Games Week? Che tanti, qualcuno mi dice: ma dove sei andato alla Games Week? Ma che roba è? Beh, innanzitutto mi sembra giusto e doveroso fare una premessa, nel senso che è stato un evento caloroso dal punto di vista umano, perché ci siamo conosciuti e abbracciati per la prima volta. È stato bello, ci siamo toccati, diciamo così. Ci siamo toccati, quindi ho conosciuto, ho visto tutta la tua essenza, tutta la tua corporeità, quindi per me è stato un evento veramente fantastico. Detto questo, passiamo un po' alle cose un po' più serie, che sennò mi caccio prima nel tempo, e questo non andrebbe bene per i miei fan. E spieghiamo un attimo cos'è questa Games Week. La Games Week è una fiera, come avete avuto modo di intuire, che si tiene a Milano, è la terza edizione ed è organizzata da ESVI, che sono l'associazione, diciamo, che riunisce i massimi editori di videogiochi in Italia, centro Nintendo, centro Sony, però centro anche altre realtà. È una fiera prettamente commerciale. Cosa vuol dire? Che è una fiera dedicata al pubblico, quindi non è una fiera chiusa dove gli addetti ai lavori possono scambiarsi informazioni o quant'altro, ma è una fiera dedicata appunto per presentare i giochi, per presentare i titoli, presentare le console e alcune novità. Chiaramente non pensate a qualcosa di immenso, nel senso, non è lontanamente paragonabile all'E3, non è l'E3, diciamo così, è tratto, non è la Gamescom, è una fiera italiana, pur essendo italiana, però sicuramente una dei migliori che mi è capitato di vedere in questi anni, soprattutto perché lasciamo il discorso delle scale, degli ascensori, che magari ci tornerai tu nella terza parte, però mi piace lasciare degli indizi per i nostri ascoltatori, così poi capiranno a cosa mi riferisco. Però mi è piaciuto perché innanzitutto quest'anno è stata inaugurata la Nolan Bushnell, e quindi sicuramente un ospite di tutto rispetto, di cui parleremo nella seconda parte con Stefano Paganini, chiaramente, e Carlo Sant'Agostino, perché ovviamente è un po' più in tema con archeologia videoludica e archeologia informatica. Ottimo, dicevo, mi è piaciuta perché è stata un'occasione per vedere riuniti in un unico posto diverse redazioni di siti videogiochi, quindi diciamo conoscere anche di persona delle penne o degli individui che comunque solitamente leggiamo ma non riusciamo a collegare a un viso un'espressione. Mi è piaciuto perché comunque i vari stand, soprattutto quest'anno dove si presentava PlayStation 4 e Xbox One, erano sicuramente da vedere e da godere. Mi è piaciuto perché è stata dedicata in parte anche allo sviluppo in italiano, quindi sicuramente un settore che merita di essere studiato e merita questo tipo di spazi. Mi è piaciuta meno, e probabilmente qua è il punto più dolente, in parte per l'organizzazione, ma soprattutto per il pubblico con cui abbiamo avuto a che fare. Nel senso che, tolti gli addetti ai lavori, abbiamo visto, scusatemi il termine, anche dei branchi di pecore che veramente ti fanno un po' riflettere sulla condizione umana attuale. Adesso io rimanderei a questo punto proprio su World Games Italia rispetto a un paio di articoli che siamo, anzi, gli articoli sulla Games Week che stiamo facendo uscire proprio in merito a questa nostra esperienza, alcuni dei quali, magari, ecco, quello che ho scritto io è un po' indicativo, diciamo, di un certo tipo di riflessione che poi in realtà non è né più né meno di quello che succede anche nelle altre fiere, soltanto che ovviamente in una dimensione più ridotta, però allo stesso tempo in realtà il fenomeno dal punto di vista proprio fenomenologico, insomma, il problema, diciamo, rimane lo stesso, e questo, insomma, è abbastanza inquietante per certi versi. Dall'altra, vabbè, evidentemente fa parte comunque del circo, quindi tocca anche un po' starci. Sì, sì, poi non so se hai avuto modo di vedere, però siamo finiti anche su Kotaku, che è un sito abbastanza importante straniero, appunto per le vicende che sono accadute durante la fiera, quindi sicuramente qualcosa che non va c'è, però magari appunto lasciamo spazio agli articoli e non diamo spazio a questa gente che... Sì, perché oltre alla questione fenomenologica poi c'è l'inciviltà nostra, che insomma magari... Oddio, poi dopo in realtà quello che succede nelle fiere all'internazionale non lo so, ma insomma mo non è che questa cosa succede solo da noi, però e parliamo comunque di alcune cose che sono successe nello stand di Activision per la presentazione appunto di Call of Duty Ghost, dove praticamente c'è stata una sorta di tumulto, hanno portati via anche pezzi di stand dell'Activision, fino a che ovviamente Activision ha dovuto poi interrompere l'afflusso ovviamente di gente, perché la cosa era cominciava a diventare praticamente ingestibile. Ma Roberto, rispetto agli altri anni, questa edizione 2013, più piccola, più grande, meno organizzata, perché insomma dicevi, ecco, facevi magari qualche accenno anche all'organizzazione, magari facciamo anche, diciamo, senza dover poi magari marcare troppo la mano, cioè diciamo anche pure quello che riguarda la nostra esperienza per la richiesta degli accrediti, insomma, c'è stato che tipo di differenza magari hai trovato rispetto al passato e che tipo di organizzazione ci siamo trovati davanti? Allora, partiamo sicuramente da un paragone col passato. Allora, rispetto agli altri anni, comunque è una fiera in crescita, quindi è una fiera in crescita sia a livello di stand e comunque di organizzazione, intesa come numero di eventi che si è voluto organizzare, sia come affluenza numerica. Giusto per fare un esempio, se gli anni passati il venerdì era un giorno sostanzialmente tranquillo o molto vuoto, quest'anno già verso il primo pomeriggio del venerdì la situazione era veramente impressionante, il super numero di persone, di ragazzi che volevano entrare, vedere e godere il videogioco. Quindi sicuramente è un evento che sta assumendo un'importanza abbastanza rilevante, speriamo che riesca a assumere un'importanza sempre maggiore per avere magari qualche anteprima, qualche gioco in più, qualche presentazione in più, però sicuramente da questo punto di vista nulla da eccepire. Per quanto riguarda l'organizzazione, sicuramente si può fare di meglio. Partiamo dalla conferenza di Nolan Bushnell, che voi siete testimoni primi di questa cosa. È stata organizzata bene, ma a parte il ritardo con cui è iniziata, quindi è tipico purtroppo dei nostri eventi. Sì, anche se a noi ci ha fatto comodo, esatto. Però, nel senso, non era indicato praticamente da nessuna parte, lui sarebbe tenuto alla conferenza, quindi o si andava intuito o non ma c'era. Ma soprattutto dove era, nel senso, non tanto che la conferenza era nella sala conferenze, ok, ma dove era la sala conferenze è stato un delirio, perché questo è stato un momento in cui ci siamo proprio persi nello spazio e nel tempo, fino a che a un certo punto ci siamo ritrovati a parte che ci siamo trovati fermi dentro l'ascensore, ma vabbè, questo è un discorso a parte. Però è stato proprio complicato, proprio meccanicamente, anche riuscire a raggiungere, fino ad arrivare addirittura in sala stampa, dove c'erano due o tre persone che in qualche maniera erano tendenzialmente addetti anche all'organizzazione. Cioè, scusate, dov'è la conferenza di Bushnell? E niente, no, il mistero. Non sapevo neanche chi era, quindi probabilmente. Chi è Bushnell? Quindi questi questo sicuramente che parlano di videogiochi. Ecco, quindi questo sicuramente è un punto negativo. Anche per il discorso accrediti, diciamo che sicuramente va reso atto che c'è stato un numero impressionante di richieste. Però purtroppo abbiamo avuto qualche piccola difficoltà nell'ottenere risposte. Insomma, non so se per deficienza mia, quindi nel senso ho sbagliato a utilizzare i contatti, non mi sono spiegato. Però diciamo, per ottenere qualcosa, capendo pure che se noi siamo una piccola realtà magari rispetto ad altre, abbiamo un po' faticato, questo sicuramente. Però ritengo personalmente che al di là dell'effettivo bacino di riferimento delle varie realtà presenti, quindi posso pensare a multiplayer, neurogamer, che chiaramente hanno un diverso impatto, quindi ad esempio, giusto per aprire un altro inciso, per un'intervista diretta a Bushnell è giusto che abbiano avuto magari la precedenza, per altre cose mi sarei aspettato un altro tipo di risposta, questo sicuramente. Un'altra cosa che mi sento di sottolineare, che insomma è indicativa dei tempi che cambiano, è che i vari stand con i giornalisti o comunque quelli addetti ai lavori erano sostanzialmente solamente online, nel senso riviste online, mentre di cartaceo per le poche che sono rimaste non c'era niente, se non Wired con un piccolo stand di un metro per un metro. Vuoto, tra l'altro, dove noi andavamo a fare incetta di riviste. Per poi rivenderle fuori ai ragazzini urlanti. Chiaramente, esatto. No, direttamente alle edicole. Okay. Guardi, c'è finito il numero di Wired? No, perché ce l'abbiamo noi, non c'è problema. Vabbè, comunque sostanzialmente da questo punto di vista un po' magari qualcosa da migliorare per le prossime edizioni. Per il resto una fiera, da quello che ho capito anche sentendo in giro, una fiera leggermente sottotono a livello di volume, come grandezza, diciamo così, rispetto agli altri anni, ma molto molto cresciuta dal punto di vista del pubblico, tant'è che in effetti noi quello che siamo riusciti a fare lo abbiamo fatto il venerdì, perché non c'era ancora il grande pubblico dei ragazzini che hanno poi invaso completamente la fiera il sabato e la domenica, suppongo, anche se noi la domenica già non c'eravamo più. Sì, diciamo appunto la grossa differenza, come ti dicevo prima, è il pubblico. Adesso al di là del venerdì, proprio il sabato, vedendo foto, sentendo anche gente che c'è stata, è stato veramente un delirio. Quindi probabilmente l'organizzazione da questo punto di vista ha funzionato bene, nel senso che comunque ha reso vivibile l'ambiente, per questo è stata la mia esperienza. Vorrei aggiungere un'altra piccola parentesi sugli stand presenti, uno stand che ha fatto veramente piacere vedere sugli amici di Games Collection, ovvero uno stand dedicato proprio al retro game. Questo è molto curato, probabilmente personalmente credo il migliore di tutta la fiera. Per organizzazione e per anche di questo ne parleremo poi ovviamente nella seconda parte, ma sì, condivido insomma, anche perché in realtà la maggior parte degli stand, a parte gli stand specifici, magari quelli grossi, Sony, Microsoft o appunto i grandi brand anche dal punto di vista di videoludico, la maggior parte insomma erano piccoli stand che erano prettamente promozionali, oltre a quelli che vendevano roba che spesso e volentieri era anche relativamente attinente al discorso del videogioco. Vabbè Roberto, io se hai da aggiungere qualcos'altro, se no io direi a questo punto di salutarti, anche perché so che per questioni prettamente tecniche hai anche delle esigenze, che non sono esigenze, perché detta così sembra che devi andare al cesso, ma in realtà non è così. In realtà sono prima di registrare questo. Esatto. No, vabbè, insomma, se hai da aggiungere qualcosa, se no poi magari ci salutiamo e mandiamo il primo brano e andiamo poi nella seconda parte, che è quella appunto più retroludica, insieme a Stefano e Carlo. Sì, guarda, vorrei aggiungere proprio due cose al volo. Torno un attimo su Games Collection solo per dire, sottolineare il fatto che è stata ESV in persona a chiedere questo stand, quindi un'attenzione verso questo tipo di realtà che ritengo sempre più importante. Aggiungo che mi sarebbe piaciuto vedere magari in realtà come l'archivio videoludico o la Mecca. La Mecca era presente con i due responsabili, però purtroppo non aveva un suo stand. La seconda... che salutiamo ovviamente Gian Sandro e Michela, che tra l'altro ci siamo fatti anche una bella foto, che tra l'altro oggi hanno pubblicato su Facebook taggandoci, quindi ci fa piacere che sta nascendo questa amicizia che sboccerà poi ovviamente in uno speciale che faremo nei prossimi mesi, anche per presentare il loro di sforzo, insomma. Esatto, andare anche al mare, approfittarne. E poi l'altra cosa, Genova, non so quanto possa essere bello il mare, no? Ma sì, non preoccuparti, sempre una pozza d'acqua rispetto ad Ostia. Poi certo, dopo questa piccola puntata razzista al laghetto, l'altra cosa che vorrei sottolineare, poi veramente vi saluto, è il fatto che mi ha fatto un po' specie, senso se volete, che era presente in due stand l'Oculus Rift, la nuova periferica ottica che sta facendo furore ovunque, ma era presentato in due stand di due riviste, o meglio di IGN e di Game Time, che Game Time è una trasmissione televisiva. Sì. Ecco, il fatto che venga utilizzato questo tipo di veicolo per presentare una periferica mi ha lasciato un po' spiazzato, dico la verità, nel senso mi sarei aspettato uno stand apposta oppure qualcosa di diverso, ecco, che sia stato lasciato oppure per volontà loro, e quindi sicuramente sono a ringraziare per lo sforzo e per la buona volontà che ci hanno messo, presentato da loro mi ha lasciato un attimo spiazzato, nel senso che ho trovato poco chiara la connessione, ma non che abbiano fatto qualcosa di sbagliato, per amore di Dio, anzi. No, proprio... grazie a loro. Il grazie a loro, è che esatto. Dici, hanno ripetuto la mancanza della fiera. Esatto. Esatto, invece di essere presente ufficialmente, se non fosse stato per lo sforzo anche di IGN di Game Time, ovviamente non l'avremmo neanche potuta provare. Insomma, questo sicuramente sono assolutamente d'accordo con te. Va bene, Roberto, il nostro tempo è scaduto perché questo è uno speciale. Abbiamo appunto tre tronconi e cerchiamo di rimanere in tempi decenti. Cerchiamo di fare un po' i radiofonici una volta nella vita. Grazie, ci sentiamo insomma su Archeologia Videoludica o, se capiterai, anche su qualche episodio di Dietrologia Videoludica. Ok, grazie a tutti, buona serata e buona continuazione. Perfetto, e ovviamente vi lascio appunto con questo primo brano, con un gruppo, una band degli artisti che vengono direttamente dalla Svezia, OZ si chiamano, e il loro brano che ho scelto chiaramente non poteva essere che 8-Bit Empire. E rientriamo in questa seconda parte di questo specialone sulla Games Week, e ovviamente non potevamo esimerci nel fare un passo indietro anche nella storia. Perché? Perché questa Games Week ha esordito con un personaggio abbastanza particolare, insomma un personaggio che ha fatto a modo suo e per varie fortune, insomma, la storia del videogioco, che è Nolan Bushnell, che ha aperto praticamente la Games Week con una sua conferenza che, come abbiamo già detto anche nella prima parte, grazie al cielo anche iniziata in ritardo, perché noi abbiamo trovato delle difficoltà e ci siamo smarriti nello spazio e nel tempo nella Games Week, perché non riuscivamo a trovare ovviamente la sala conferenze, mentre che Carlo Sant'Agostino, ciao Carlo. Ciao, eccomi qua. Ciao a tutti. Si era già bello piazzato e ci aveva anche tenuto i posti insieme a Stefano Paganini. Ciao Stefano. Ciao a tutti, eccoci qua. Allora, Stefano e Carlo li conoscete, sono i conduttori e gli autori di Archeologia Informatica, e ogni tanto danno anche una mano a Archeologia Videoludica, e quindi questo enorme crossover che stiamo facendo non potevano chiaramente mancare. Allora io inizierei subito, Carlo, dalla conferenza di Nolan Bushnell, che è stata una conferenza un po' particolare. Beh sì, particolare perché il personaggio è particolare, stiamo parlando di un personaggio che ha segnato la storia del videogioco, e non solo del videogioco, parliamo dell'informatica in generale, cioè senza di lui sicuramente non avremmo il mondo videoludico che abbiamo adesso, dopo tutto. E forse involontariamente anche non il mondo informatico. sì, no, assolutamente, il mondo informatico è fondamentale. Per sua stessa missione. Assolutamente, ma il personaggio eccezionale, e io l'ho trovato eccezionale anche nella sua normalità, cioè l'eccezionalità di essere una persona normale. Abbiamo avuto modo anche di parlarci privatamente, anche in maniera informale, oltre all'intervista, eccetera, e l'ho trovato una persona assolutamente incredibile, anche per quanto si ponesse in maniera assolutamente tranquilla e normale con tutti. Io gli ho portato una piastra madre di Breakout da fargli autografare, giusto per avere un ricordo dell'evento, e lui si è soffermato a guardarla, l'ha presa, ha detto che lui non ne aveva più, mi ha descritto i circuiti logici, i TTL, mi ha descritto la parte che aveva progettato lui, la piccola parte del timing della piastra madre, che è stata riutilizzata in tutte le piastre dell'Atari negli anni 70. E vabbè, poi le storie particolari sul Breakout se ne possono dire mille, perché poi sapete che Breakout è il videogioco che era stato commissionato a Jobs, la realizzazione, a Jobs, no? L'ideazione era di Bushnell, la realizzazione era di Jobs, che poi in realtà l'ha fatta fare a John Wozniak, a Wozniak, ovviamente, meno della metà dei soldi che ha preso da Atari. Però vabbè, sì, quella è una storia che abbiamo raccontato, che poi tra l'altro è anche inquietante, perché in realtà, pur sapendolo, questo strano rapporto tra Wozniak e Jobs poi è continuato comunque negli anni, ciò nonostante. Hai detto una cosa interessante, perché comunque Bushnell, e lo ha detto anche Paganini, non mi ricordo dove, forse lo ha scritto da qualche parte, il fatto che comunque non si è presentato come il mega personaggio, ma è venuto lì come una persona normale. Tra l'altro, se uno lo vedeva camminare per i corridoi della Games Week, probabilmente non l'avrebbe neanche notato. Insomma, allora, una delle cose per cui sicuramente sarebbe risaltato in giro è il fatto che era più anziano della media, notevolmente più anziano della media, oltre a essere un Marcantonio di uomo molto alto. Eh sì, beh, Cristone, sì, esatto. Sì. E poi comunque durante la conferenza stampa, il modo in cui si è posto, a parte il grande vecchio che racconta degli eventi, è un imprenditore, perché poi con Carlo ne abbiamo parlato ampiamente, è da considerare più che un programmatore, un nerd, uno smanettone, un grande imprenditore, uno che ha preso, comprato, venduto aziende, ha ricominciato. Arrivo al punto finale: attualmente lui si occupa di formazione, di didattica, sempre tramite sistemi di videogioco, per cui non tanto l'archeologia videoludica quanto i videogiochi, le app, tutto quanto per fare formazione per didattica. Ciò detto, nell'intervista si vede, perché poi gli abbiamo fatto due o tre domande e devo dire, è la cosa bella, penso che Carlo concordi, il fatto che gli abbiamo parlato anche, forse anche troppo, rubando dello spazio anche ad altri, sì. In maniera assolutamente normale, cioè non era un'intervista. Quello è il giornalismo, quello però è il giornalismo in Italia, cioè nel senso il più aggressivo acchiappa spazio, insomma, diciamo. Anche se un po' ci dispiace quei ragazzi di Games Week, perché sì, di Games Week, di Games Collection, perché chiaramente era uno spazio, diciamo, un momento condiviso che poi però non volevamo assolutamente assolutamente no, ma la disponibilità, esatto, ha dato ampia disponibilità a tutti, no, la cosa è, addirittura dopo ci siamo fermati anche dopo le interviste a parlare ulteriormente, io fuori con lui mentre si fumava la pipa sono stato lì un quarto d'ora a chiacchierare tranquillamente, era una persona, ve l'ho detto, cioè, noi sapevamo che è il grande personaggio che era, ma giustamente Stefano dice, uno che non sapeva chi fosse pensava che un signore, sì, sì, esatto, che passasse, esatto, di lì, esatto. Non è? E a pensare, se poi ti fermi un attimo a pensare chi è veramente, stiamo parlando veramente della storia dell'informatica e del videogioco, cioè di un personaggio che al pari assolutamente di persone come Jobs e Steve Gates e Bill Gates, quindi non da sottovalutare. Infatti è più una questione psicologica di quando ti trovi di fronte un personaggio del genere che poi ha rappresentato veramente un'icona, perché poi le cose che sono uscite da quella mente o da quelle mani, più da quella mente magari, sì, sono cose che tu hai amato quando eri ragazzino, no? Quindi in qualche, e poi anche inconsapevolmente, perché noi dicevi, ah, questo l'ha fatto, ovviamente il personaggio l'hai conosciuto successivamente, quando hai cominciato a esplorare la storia di quello che ti piaceva, no? Quindi tutto quello che poi era correlato, quindi è chiaro che un po' l'effetto un po', questa specie di contrasto tra quello che è comunque un'icona storica del mondo del videogioco e dell'informatica, come dice giustamente Carlo, rispetto a un atteggiamento invece che era un atteggiamento molto più easy, molto più disponibile, molto più semplificato proprio anche nel comportamento, perlomeno almeno all'apparenza, poi ovviamente non è che lo conosciamo nella vita privata come si comporta, no, o come si comporta nelle aziende, però credo che non ci siano, credo che non ci siano tanti strati. Volevo aggiungere questo, no, rispetto ad altri personaggi, lui porta uno strato, diciamo, di saggezza che deriva più che altro dall'età anagrafica, uno strato di saggezza che deriva, e questo durante la conferenza stampa lo ha raccontato, da tanti errori commessi. Lui ha raccontato molto anche dei suoi failure. Certo. E non è poco. Non solo dei suoi, detto, ovviamente. No, no. Certo. E poi raccontando di quello che sta facendo. Anche cose peggiori, comunque. Sì, questo, sì, esatto. Dopo ne salivia. Però anche delle altre cose di cui ha parlato, che ha raccontato anche della sua storia. E il suo punto di arrivo attuale, appunto, riguarda la formazione, la didattica tramite videogame e sostanzialmente la formazione di nuove persone, di nuovi, diciamo, rifondatori di Atari. Lui attualmente è in fase promozionale eterna, diciamo, di un suo libro che è Chi potrebbe essere il prossimo Steve Jobs, e dice sostanzialmente, il titolo è un po' una chiappa all'odole, perché in realtà non dobbiamo essere i prossimi Steve Jobs, dovremmo essere i prossimi noi stessi, ma con l'inventiva e probabilmente anche l'aggressività di Steve Jobs, cioè quello da mutuare è una parte dello spirito, poi in realtà ciascuno deve portare la propria creatività al meglio. La persona, perfetto, certo. Scusa. A me è rimasta una frase riguardo a questo molto presente nella conferenza, quando lui ha detto, anche perché è una critica che gli si muove spesso, però scusate, perché siccome che voi due siete veramente le persone più ingestibili dal punto di vista mediatico che possa conoscere e vi voglio bene per questo, intanto Stefano leggi la chat perché ti stavo scrivendo una cosa. Iniziamo, okay, cioè andiamo con ordine, Carlo. Partiamo da questa conferenza, raccontiamola in soldoni, chiaramente cercando di essere stringati dall'inizio alla fine, e poi ovviamente magari facciamo anche qualche commento. Io non me la ricordo. No, vabbè, no, non dobbiamo parlare della conferenza, nel senso, ecco, quello che la conferenza ti ha lasciato, qualche spunto che ovviamente, gli spunti che ti ricordi, che chiaramente fanno parte di... È quello che stavo dicendo adesso, cioè la parte che mi ricordo è... Se posso riprendere la frase, riprendo da lì. Va bene. Mi è rimasta molto una frase che è questa. Lui ha detto: sono capaci tutti di avere delle idee sotto, sì, la doccia. L'importante è quello che si fa una volta usciti dalla doccia, perché una critica che gli si muove a lui come altri molto spesso grandi personaggi è quella di dire ma quella cosa lì in realtà l'aveva già inventata qualcun altro, l'aveva già fatta qualcun altro, l'idea l'hai copiata. Ma il punto fondamentale è proprio questo: sono capaci tutti di avere delle idee e basta. E vabbè, è vero, non fino a un certo punto, ma sì, ok. Sì, no, è importante è quello che fai dopo, quando hai avuto l'idea, esci e metti in atto, metti in pratica, ma soprattutto ti fai di tutto perché questa idea diventi, se non fossero stati così cocciuti a volte, penso che non avremmo avuto nulla di quello che abbiamo attualmente, certi personaggi. Come lui, come Jobs e come tanti altri. Cioè, è vero che il principio è non è importante chi c'ha l'idea ma chi la mette in pratica. È vero sicuramente come tipo di insegnamento, è vero che moralmente può anche essere leggermente discutibile, perché dici ok, io riesco a mettere in pratica per primo la tua idea e magari ti riconosco un qualcosa, no? Nel senso che poi lì il problema è che in quel periodo lì secondo me era un po' discutiamone tutti insieme, quello là ci ha avuto una bella idea, provo a farla per primo. Cioè, la cosa potrebbe essere trasferibile. Era un mondo diverso rispetto ad oggi, che ci sono le grandi industrie, segreti industriali o roba del genere. Cioè, allora si incontravano nel club e ne discutevano, insomma, nel senso che era un po' così, no? Ma guarda, io non credo questo, perché guarda che il diritto di copyright di brevetto c'è sempre stato, e infatti molte delle idee che hanno poi messo in pratica Atari e Apple, che erano state precedentemente brevettate, poi hanno generato delle cause che hanno anche perso. Però l'Atari quindi... 2006 non era brevettato, per esempio, del motivo per cui è stato impunemente clonato a destra e a manca, insomma. Che il cosa, Pong. Scusami, non ho sentito. L'Atari 2006 mi pare che non fosse registrato come brevetto, ed è il motivo per il quale poi è stato anche clonato a destra e a manca, anche con console tipo la Gemini o via dicendo, che facevano anche tranquillamente e bellamente pubblicità in televisione dicendo è come l'Atari 2006 ma costa di meno ed è anche meglio perché ti diamo il coupon da 25 euro. Cioè, insomma, sì, ma guarda che quello in realtà non è un po' difficile brevettare una cosa così complessa. Il concetto di brevetto lì poi trovi subito l'escamotage per aggirarlo. Il concetto di brevetto si basa su dei concetti molto più semplificati e basilari, facili da difendere. Per esempio Atari negli anni 70 aveva brevettato tutti i concetti di videogioco del tipo omino che entra nello schermo, omino che esce dallo schermo, pallina che entra nello schermo e cose di questo genere. Scusate un attimo, era anche un periodo in cui c'era un fortissimo gap legislativo, dato che la legislazione americana funziona a precedenti, non c'erano semplicemente dei precedenti. Il caso dell'Apple anche. 2 con la Bell & Howell e con la ITT, cioè il fatto che qualcuno avesse clonato fisicamente l'Apple 2 facendo reverse engineering, cioè ha dato comunque un grandissimo una grandissima stura a tutta la parte legale per quanto riguarda i copyright. Non c'era proprio il Pong. Vabbè, se pensate, diciamo che il Pong sostanzialmente è stato copiato. Era un mondo in divenire, Stefano, cioè nel senso che poi alla fine pensa da lì anche poi... il Pong, tutti i cloni. Ma per esempio il Pong invece no, perché Magnavox Atari Magnavox fece causa, esatto, ad Atari, perché fu ovviamente e la vinse anche. Cioè la vinse, in realtà ci fu un accordo extra giudiziale processuale, però gli extragiudiziale, però gli diede i soldi e da quel momento tutti i produttori di Pong del mondo dovettero pagare le royalty a Magnavox. Infatti se prendete tantissime console Pong di quelle degli anni 70 e le girate, sotto c'è Licensed by Magnavox. Anche quella della Zanussi che ho. Anche, esatto. Quindi in realtà è vero fino a un certo punto, cioè il primo che ha avuto l'idea poi ha dei diritti se questa è stata comunque fatta. È ovvio che se uno ha l'idea e non fa niente, chi suoi, ma Bauer, che aveva fatto il Pong, la Brown Box, e aveva creato per primo, convincendo dopo anni la Magnavox a produrre la sua console, quando Atari poi uscì con la console domestica, gli fece causa perché era uscito, aveva i brevetti e tutto quanto. quindi alla fine chi ha per primo l'idea e poi la realizza è anche vero che ha un certo tipo di ritorno. No, ma questo è senza, cioè, senza dubbio. Io faccio, perché io purtroppo sono una persona, probabilmente ho un ragionamento distorto mio, e faccio un discorso completamente morale, dico vabbè, cioè nel senso sì, di principio è corretto e probabilmente lo è anche legalmente, non lo è moralmente per me, però poi dopo so io che so un po', un però po' lui, strano. Quindi... Scusa Simone, solo per dire questo, cioè quello che dico è che Bushnell sì, anzi, per dirlo bene, lui lo sa insomma che è un gran paraculo. No, esatto, è quello che questo volevo dire. Questo voglio dire, non è che è lui si presenta casi dicendo no, io sono onesto, cioè nel senso, lui dice, io sono stato lui è molto un paraculo. Onesto. Lui, siccome mi è capitato anche di sentire altre persone, diciamo in questo ambito, nelle conferenze, molto spesso vanno a scontrarsi contro la loro scheda su Wikipedia. Scrivendo il post per archeologia informatica, una delle prime cose, sia su quello italiano che su quello inglese, è che la scheda dice si riconosce lui stesso, cioè una sua citazione, non tanto il merito di aver inventato i videogiochi, ma di aver inventato il mercato dei videogiochi. Esatto. In questo, secondo me, esatto, è assolutamente onesto e grandemente apprezzabile. No, ma assolutamente. No, ma poi anche, cioè, nel senso, nel suo modo di porsi e di essere anche estremamente sfacciato, è anche simpatico. Quindi, cioè, nel senso, quindi Carlo. Ma sai anche cosa aspettarti. Scusa, una delle domande, diciamo, fuori canestro, visto che abbiamo Carlo e io, Pagani, abbiamo avuto modo. Non è una puntata di archeologia informatica. No, poi no, le no, puntate perché, su Bash. Riguardo i giochi, una delle cose che mi è piaciuta moltissimo, due, te ne dico due. Una è che gli ho domandato, cioè, scusi, ma lei, cioè, are you still having fun? Ci arriviamo all'intervista, Pagani, aspetta, abbi pazienza un secondo, perché sennò poi dopo mi si accavalla l'informazione, anche perché la facciamo sentire un attimo. Non fartela quindi... accavallare. Ok, torniamo a Carlo. Accavallati. Cosa dire? Non lo so, cioè nel senso, ecco, poi volevi aggiungere altro rispetto a... No, io cioè, dopo aver detto quella frase eccetera, non ho nessun'altra cosa da aggiungere sulla conferenza. Ok, che poi è una conferenza dove lui mi ha lasciato questa, anche perché io alla fine, ecco, concludiamo dicendo che alla fine la persona mi ha lasciato ancora più, già lo ammiravo in precedenza, io c'è da dire la verità, perché è una persona che ho sempre ammirato per quello che è riuscita a creare, cioè il mercato del videogioco, come giustamente si diceva prima. Lui non ha inventato il videogioco di per se stesso, ma ha inventato il mercato certo, del videogioco. E quello che mi ha lasciato dopo la conferenza è ancora più ammirazione per come si è presentato, per come si è posto, e proprio perché all'interno di questa conferenza ha descritto in maniera molto veritiera e palese quelle che sono state le sue realizzazioni, i suoi successi, i suoi insuccessi nella vita, i suoi sbagli, e questo lo vuole, raggiunta diciamo l'età anagrafica che ha raggiunto, vuole, il suo scopo sembra essere proprio quello di voler trasmettere agli altri questo tipo di esperienza, proprio per cercare di far evolvere anche noi. Ha parlato specificatamente della situazione italiana, ecco, nella conferenza, del fatto che lui diceva nella conferenza come negli Stati Uniti c'è una grande disoccupazione giovanile, e ha citato il fatto che secondo lui il fatto che non si trovi lavoro è perché il mondo del lavoro sta cambiando talmente tanto che l'offerta attuale non è quella che avremo, sì, da qui ai, esatto, prossimi 5-10 anni. E ha spronato i giovani presenti alla conferenza: non avete lavoro, inventatevelo, dovete crearvelo voi, perché i lavori che andranno nei prossimi anni sono lavori che non esistono ancora, non sono mai esistiti, come è stato sempre fino adesso nell'evoluzione di questi ultimi 50 anni, in maniera particolare poi, no? Che esatto. Dove abbiamo... quindi ha spronato, diciamo, la gente a un pochino a svegliarsi tra virgolette, a agire, per se le cose, vedi che le cose non vanno, fai qualcosa per farle andare meglio. Perfetto, io chiuderei questa parte della conferenza con una domanda, vi faccio entrambi, partiamo da Carlo e poi anche Stefano, e giusto per metterci un po' di pepe e un po' sul politicamente scorretto, diciamo così, Bushnell ha espresso una considerazione verso Steve Jobs, no? In maniera molto, ha raccontato alcuni aneddoti, sfacciata anche, certo, dicendo insomma che poi in realtà lui fondamentalmente era, vabbè, ha fatto anche delle considerazioni personali, non so se ve lo ricordate. Sì. No, vai, Pagan. Allora, iniziamo da Pagan che se lo ricorda. Allora, che era un individuo scontroso e che puzzava, tanto per tirar fuori le due cose in assoluto più... Che mi ha fatto strano non perché non sia vero, ma ha fatto strano il fatto che... Che lo raccontasse così, ma in realtà credo che il profilo che ne ha tracciato, mentre era dipendente come Atari... È reale, cioè è basato sull'esperienza e sull'interazione che ebbe Jobs con gli altri dipendenti Atari. È storia e biografia di Jobs, che passò al turno notturno semplicemente per avere meno interazione con altri esseri umani, perché era un problema, cioè laddove portava delle soluzioni era anche soprattutto un problema di carattere, diciamo, organizzativo, umano, ecco, come risorsa umana. Io non ho trovato nulla, anche perché infatti mi ricordavo che ha detto delle cose che già sapevo, quindi non ho trovato nulla di strano in quello che ha detto Bush. Era veramente un po' dei beni, in realtà erano citazioni da quello che era la storia di Jobs in Atari, sì. Quindi non è stato anche estremamente onesto da questo punto di vista. Anzi, esatto, dalla parte, al di là del pepe che volevo metterci io, in realtà poi alla fine, se uno fa una contro riflessione, è più una questione anche di onestà e di schiettezza rispetto al fatto, perché io poi ho sentito qualcuno dice vabbè, però magari da una persona che non c'è più, no? Nel senso che comunque non può replicare. In realtà queste sono cose che sono state dette quando c'era, quindi in realtà anzi ha fatto secondo me un grandissimo complimento, e si è anche a un certo punto ha detto, questo me lo ricordo, ha detto: pensate, mi hanno offerto di comprare il non mi ricordo se il 20 o il 30% di Apple, e lui ha detto, e io ho rifiutato, pensate come mi sento. Esatto. Una faccia di questo tipo. Ma pensate, cioè, anche a un imprenditore che riconosce un errore, cioè lui ha parlato forse più dei suoi errori e degli errori di Jobs, ecco. Mm-hmm. Questo è forse il punto di vista, a parte raccontare, cioè, gli aneddoti. Comunque Bushnell era Atari è fallita, cioè, due volte, no? Ci siano stati degli errori sarebbe... No, ma è il problema, quanti imprenditori raccontando la propria vita Non ha fatto fallire. Lui l'ha venduta alla Warner. Lui l'ha venduta alla Warner, che andava benissimo. È stata la Warner a fare, cioè, un'altra cosa di Bushnell, che lui in realtà, quando era lui in Atari, l'Atari andava alla grande, era il numero uno dei videogiochi al mondo, Atari era sinonimo videogioco. Quando l'ha venduta alla Warner, l'ha venduta prendendo un sacco di soldi, è stata poi dopo la Warner che l'ha fatta fuori. Che l'ha fatta fuori, non lui. Infatti lui era molto duro. Poi lui ha fatto tanti altri errori, perché è andato a investire in robotica, ha fatto ristoranti, ha fatto tante altre cose che non sono andate bene. Un po' ci ricorda anche Sir Clive Sinclair, insomma, quello che nell'estro... Non tanto, no. Il carattere è molto diverso. No, dico nel senso che nel suo estro creativo e magari imprenditoriale ha provato a fare vari altri tipi di sperimentazioni che poi purtroppo magari non hanno portato al successo. Mentre Sinclair è comunque un ingegnere elettronico e comunque una persona che progetta, Bushnell si è buttato anche in imprenditoria completamente diversa. Finivo solo questa cosa, quanti imprenditori, diciamo, italiani vanno a raccontare la propria vita e raccontano più dei propri errori che dei propri successi, dicendo che hanno imparato più dagli errori che dai propri successi. Lui nel raccontare Jobs ha raccontato moltissimi errori di Jobs, il Lisa, l'Apple 3, ma per cui li ha raccontati proprio dicendo che se uno non sbaglia non va avanti. Esatto. Era proprio per far capire che non è che ti devi preoccupare di aver sbagliato, ma questo era nel discorso quando stava provando la gente a fare, perché dice, se tu sbagli è perché hai provato a fare qualcosa e impari dal tuo sbaglio, come ha imparato lui, come ha imparato Jobs, e poi vedrai che vai avanti e prima o poi trovi la tua strada e trovi il tuo successo, no? L'ho trovato un discorso da motivatore, se vogliamo vederla, però non me lo sarei aspettato, cioè, nel senso, la sua posizione è stata molto, alla fine, molto, molto onesta, molto divulgativa. Se su archeologia videoludica, Simone, lui ha raccontato di Warner, diceva: Warner l'ha fatta fuori, ma io mi sono reso conto che dopo, che Warner era una record company, cioè una società che faceva dischi. Esatto. E lui dice: mi sono reso conto dopo dell'errore, perché loro hanno preso il 2006 nel momento massimo dello splendore, e lui aveva già i progetti, esatto, per il 5002, cioè per console successive, dicendo: io vi ho fornito fin qua, adesso però investite in ricerca e sviluppo. La risposta della Warner, frasi testuali di Bushnell, è stata: abbiamo speso tutti questi soldi di questa console, la spremeremo fino all'ultimo dollaro. E infatti l'hanno fatta morire, perché poi la concorrenza è andata avanti e li ha fatti, sì, fuori. Sì. Lui ha raccontato, esatto, una cosa meravigliosa. Mentre usciva la seconda e la terza generazione, noi stavamo in television, era già c'è, esatto, una piccola chicca, esatto, che ha raccontato durante, che è piaciuta molto sia a me che a Carlo, che ha raccontato durante la conferenza stampa, che è proprio archeologia videoludica. E lui riguardava il fatto di non stare con le mani in mano. Lui aveva già progettato un modem per l'Atari 2006. E lui dice: nella sua idea doveva esserci una specie di Atari Network per giocare in rete con i modem a 300 baud, già diciamo nel 1980, e sarebbe stato, ovviamente è la visione di Bushnell, ma una specie di archeo internet o comunque archeo game network, una cosa di questo genere. E lui si pentiva molto di non aver spinto Warner a seguire questa direzione. Ah, beh, bisogna vedere, cioè, nel senso, la grande intuizione, se era poi adeguata all'epoca, se, perché abbiamo visto nella storia dell'informatica quante grandi idee poi in realtà erano probabilmente troppo grandi o troppo avanti magari per un'epoca in cui però poi dopo... è uno scenario interessante, però, almeno, esatto, lui diceva non ci hanno neanche provato, cioè il punto no questo l'ho capito, della, sì, della conferenza era, sì, questo, sì, cioè provarci, poi magari fallivi, però ci avevi provato. Quindi andiamo tutti a dare fuoco a casa di Warner. Va bene, detto questo, io a questo punto dico il motivo vero e proprio per cui noi abbiamo fatto questa grande avventura, ci siamo imbarcati, abbiamo preso il treno alla mattina con i lupi che ululavano, abbiamo investito risorse di IPN per arrivare alla Games Week con gli accrediti e tutto quanto, era proprio per incontrare Bushnell e per riuscire a strappare a questo grande personaggio della storia del videogioco e non solo, chiaramente anche un'intervista. Non sapevamo, non avevamo idea, perché abbiamo lavorato molto con l'organizzazione, ma non era poi così scontato che noi riuscissimo a fare questa cosa, ma era veramente un obiettivo nel quale ci siamo concentrati, e grazie anche a Stefano e Carlo chiaramente siamo poi riusciti ad ottenere un pezzo di intervista, tra l'altro anche solo nostra, nel senso che lui ci dice: bravo, so buoni tutti, noi ci vantiamo di questa cosa, perché noi nella nostra piccolezza comunque alla fine in qualche maniera siamo riusciti ad ottenere qualcosa. Il video completo di questa parte di intervista che siamo riusciti a strappare noi chiaramente è su YouTube, al canale di Archeologia Informatica, poi lo linkeremo nelle note dell'episodio, quindi ve lo andate a vedere, perché è interessante. Comunque vi facciamo sentire uno stralcio di questa intervista anche adesso, e non facciamo come faremo di solito, utilizzando anche la professionalità di Vera Arma, che da traduttrice e doppiatrice chiaramente ha sempre fatto il voice over a tutte le interviste in inglese che abbiamo fatto, ma la lasciamo proprio così come nuda e cruda, poi chiaramente perché abbiamo l'occasione di avere Stefano e successivamente all'intervista insomma magari qualche spunto rispetto a quello che sia lui che Carlo hanno colto da questa intervista. Ce l'ascoltiamo un attimo. Well, right now we can say we have a soul thanks of you. This kind of soul, a joystick based soul. Good enough. No. There's plenty of questions of you, but we're too shy to question you. Actually, really. Don't be shy. Okay. Well, I have a question. Okay. I've been attending your speech. I've been hearing all you said. And what is the future? What's the future of? What's the next Pong game, provided all people are providing social content with social network? What's the social gaming upcoming for you? I believe that there is some new kinds of software coming that create micronets. And a micronet is, think about four of you standing around with a smartphone. Yeah. And now you can play hacky sack. Okay. And so that happens with a micronet. And that's software that is not trivial, no, but essentially, can you have a micronet with no host, which you're all playing the game, and now you can use your cell phone to play hacky sack. Reality. Yeah. Using also reality on Google. Google Glasses, are Google Glasses helping, or this kind of ubiquitous devices helping? I believe that not only are they happening, I think they'll be an important platform. Now, the Google Glasses, in this articulation, don't have very good resolution. It's the first time, and so you'll see retro games on the glasses. That's right. No, really. Thank God we see them. Yeah, because the resolution isn't that good. Yeah. But I know that Microsoft is working on some Google Glasses with high resolution. Yeah. And that will be more of a gaming platform. At the time, can I ask you a question of the past? Sure. At the time of the Atari, the golden age, what did you think of your competitors, Mattel, Coleco Television, and so on? Well, remember that they didn't emerge until after I had sold the company, my attitude is that Atari, under Warner, left a big opening by not modifying their hardware at the proper time. They were the market leader, and they abandoned that leadership position. And exploiting the 2600, right. Yeah. And so the 2600 should have been replaced in 1980, maybe even 79. And if that had happened... So short-lived. Oh, yeah. So much short-lived. Well, the cost of memory was dropping. Yeah. And we made so many concessions. Yes. I mean, because memory was expensive. And the kind of games that you could do with just a little bit more memory were so much better. And so we could have given those games to the world in 1980 and still had a good cost-effective game, but Warner didn't do it. And I told them, one of the reasons I left the company is I said, it's silly. We need to, you know, and we had just introduced the 2600, and I said, now we have to start on our next one. And they said, huh? We just spent all this money on the research and everything, you know? And I said, no, but it's not for them. By the time this is ready, memory is going to be cheap. The architecture will change. The game will change. And we have to stay ahead of it. And they were all the Warner people were record pieces. And they thought of themselves as making records, not record players. That's right. That's right. And that's why they lost the game. Did you play something? Did you play something when you were inside now? Oh, yeah. I love... Are you an avid gamer? I like... right now, I like Portal. And I like Minecraft. I'm not good at shoot 'em ups anymore. Because as you get old, you lose... You know, reaction. Are you really getting over? Sorry, okay. We've been told. Sorry. In some cases, yes. We've been stealing too much time. Sorry. Okay. Allora Stefano, è stato un po' il tuo momento, ti sei buttato in mezzo, ti sei messo in mezzo e hai cominciato a sparare domande a raffica, anche interessanti, perché invece di porre magari sempre i soliti quesiti, che sono comunque i quesiti importanti, sei anche andato un po' avanti, perché comunque Bushnell ha fatto anche riferimento a nuovi dispositivi, nuovi accrocchi, nuovi modi di concepire anche il videogioco, via dicendo. Esatto. Un piccolo spunto divertente, dato che noi non riuscivamo a trovare la sala stampa, quando siamo arrivati alla sala stampa abbiamo scoperto che Bushnell stava parlando di Google Glass. Il fatto che noi non riuscissimo all'interno della Games Week a trovare una sala stampa che lui parlasse di uno strumento per navigare in giro per il mondo mi è sembrato molto divertente. Sì, assolutamente. Il paradosso. Esatto, un bel paradosso. Una delle domande è stato: che cosa vede lui nel futuro? Lui mi ha risposto innanzitutto tutta questa dimmi. No, scusa, ho fatto una battuta stupida che magari forse la taglio anche, no? Dimmi, cioè, che cosa vede nel futuro? La morte, chiaramente. In questo momento si sta toccando le palle della porta. Sì, me ne tocco io per lui, perché in realtà poi vabbè, si sta toccando i trackball di Missile Combat. Esatto, c'è purtroppo l'inevitabilità dell'esistenza, però insomma gli auguro chiaramente. Vabbè, taglia tutta questa parte di apotropike. Esatto. Ok, allora io gli ho domandato che cosa vede lui nel futuro, ovviamente. Lui nel futuro vede moltissima integrazione di tutti questi social network con quelli che lui chiama Micronet. Io ho cercato comunque riferimenti. La parte di Micronet è, come dire, identificabile sia nell'interconnessione tra console, sia nell'interconnessione tra giocatori all'interno di... comunque di internet. Ho scoperto che c'era un suo speech vecchissimo in cui lui ad esempio elogiava World of Warcraft, perché ovviamente non è una micronet, è un macronet, se pensiamo. Sì, esatto, è un macromondo anche. È un macromondo, esattamente. Lui però il modello in questo speech che raccontava, che lo aveva molto colpito, era uno dei modelli, dei primi modelli di Game Boy che permetteva l'interconnessione tra i giocatori tramite un cavetto che in realtà era un jack stereo. Questa è comunque la sua visione, cioè utenti che utilizzano strumenti sempre più indistinguibili dallo smartphone, dalla console, cioè qualcosa che sparisce, che non diventa più la vera console di gioco, ma che è qualche cos'altro, e sempre più interconnessi. Una delle domande, Carlo se lo ricorderà, gli abbiamo domandato: ma scusi, lei si diverte ancora a giocare? Che mi sembrava la domanda più serena e più sincera. E lui ha detto: sì, io mi diverto, anche se non sono più bravo come una volta con gli shoot 'em up. Ovviamente, non lo sono manco io, quindi per una questione proprio di età. Esatto. Però, e questa è secondo me la cosa più divertente, il fatto che lui riconoscesse di divertirsi ancora con i videogiochi, secondo me è la cosa, cioè I'm still having fun, è la cosa forse più interessante del personaggio. Lui gioca molto a Poi tra l'altro lui ha citato Minecraft che, insomma, esatto, lui gioca molto a Minecraft, manca a dire che dice, sai, è il giochetto che ti trovi, sì, sotto casa, insomma. Esatto, e infatti ti dà l'idea di una persona che comunque si è costruita il suo universo su Minecraft, che continua a giocarci e che, questo ovviamente dal punto di vista imprenditoriale, sempre ne sta cercando di sfruttare la parte didattica, la parte di formazione, cioè comunque di utilizzare Minecraft per il proprio business. Ciò detto, comunque è una persona che si è spesa moltissimo nell'andare oltre quello che è l'attuale mondo dei videogiochi. Lui ha parlato molto di Google Glass, del quale ha detto sì, è una cosa molto primitiva, è la prima versione, costa un botto e comunque ha dei grossissimi limiti. È tra parentesi uno dei fortunati di averlo già provato, per cui vabbè. Aveva forse più interesse per uno stand che c'era lì al Games Week, che mostrava l'Oculus Rift, sì, di cui parleremo in abbondanza nella terza parte di questo programma, che è un oggetto che probabilmente ripropone 10 anni dopo, 15 anni dopo, la realtà virtuale immersiva. E nella con sua... i suoi oggettivi limiti, che sono più o meno gli stessi di 10 anni fa. Esattamente. Però comunque lui dice: è un, non so, è un qualche cosa che viaggerà andando avanti nel tempo e che si ridurrà. La massima integrazione è avere un oggetto grande come uno smartphone con degli occhialini Google Glass e uno si porta in giro tutto quanto interconnesso perennemente. A fare cosa ma è già tutto in grande trasformazione, esatto. Perché già pure le console da videogiochi sono in transizione, diciamo così, esatto. Conseguentemente gli smartphone, come probabilmente anche tanti altri dispositivi, quindi in realtà verso l'obiettivo, probabilmente anche inconsapevole, è sicuramente quello che dice Bushnell. Sì, sicuramente, questo sicuramente. In realtà lui, vabbè, quello che ha raccontato anche tramite la, come dire, la conferenza è stato che tutto quello che noi ci stiamo vedendo è comunque un lungo strascico dei videogiochi, ma che il meglio debba ancora venire. Lui poi è ultra ottimista da questo punto di vista, e proprio l'emergere quello... Sì, lui ha detto che tutto quello che è fantascienza prima o poi si avvererà. Lo diceva Verne, giustamente, lo dice pure lui. Quello che ha fatto, sì. Che diceva prima Carlo, cioè il fatto che la metà dei lavori dei prossimi 10 anni saranno nuovi lavori, cioè nuove posizioni di lavoro che attualmente non sono identificabili, non sono riassumibili, riguarda proprio questo, cioè il fatto... Già le produzioni di videogioco, pensiamo a Call of Duty, a GTA, sono produzioni cinematografiche. Andando avanti sarà ancora più esatto. complesso la sì, creazione sì. di qualsiasi titolo, di qualsiasi videogioco. Il che significa che cambia anche il modo di concepire il videogioco stesso, che diventerà una forma di intrattenimento digitale più a largo spettro, diciamo così. Esatto. Chiaramente un gioco che ti costa 250 milioni di produzione non può essere chiaramente minimizzato alla nicchia del videogiocatore hardcore. Quindi, insomma, è chiaro che sta cambiando tutto e anche io anche in senso positivo poi tutto sommato perché non è detto che poi capisco magari tutte le persone che in realtà considerano il videogioco più in termini classici che in questo momento sono in una fase di pseudo protesta, però in realtà è anche giusto che comunque un'industria si sviluppi e per svilupparsi chiaramente deve entrare anche in uno status di compromesso insomma nei confronti del resto del pubblico, quindi è inevitabile che sia così. Questo sicuramente. Bene. Momento di panico. Allora sì. Perfetto, allora Stefano, intanto Stefano e Carlo, grazie comunque per questo lavoro, per questa piccola chicca che ci siamo portati a casa e soprattutto insomma che rientrerà negli archivi del nostro anche giovane programma come Archeologia Informatica e meno giovane programma come Archeologia Videoludica, che come già sapete abbiamo raggiunto la quarta stagione, di cui di Atari e di Bushnell ne abbiamo già parlato in un paio di puntate, di cui una è la storia alternativa di Atari, dove abbiamo raccontato insomma in maniera un po' via traverse quelle che sono le storie non ufficiali e che chiaramente probabilmente anche storie non vere su Atari, però insomma era anche divertente cercare di approcciare spesso e volentieri cose in maniera diversa. Però questa intervista allora come è nata un po' questa cosa, perché noi poi siamo usciti dalla conferenza e Carlo insieme ai ragazzi di Games Collection sono riusciti insomma a trovare il modo di far avvenire Bushnell ovviamente nello stand di Games Collection di poter condividere questo materiale, questa intervista che praticamente siamo poi riusciti a fare. Però ovviamente non possiamo non parlare chiaramente anche di Games Collection, non solo perché comunque hanno compartecipato diciamo a questo discorso, ma anche perché comunque è tra l'altro detto proprio spassionatamente è anche uno dei stand più belli tra i stand non mega commerciali che c'erano alla Games Week. Sebbene era comunque come ovvio che sia uno stand a livello retroludico, perché c'era insomma buona parte sì. o parte della collezione. Sì, no, c'erano delle piccole parti delle collezioni dei vari collaboratori e partecipanti di Games Collection con cui io collaboro da diversi anni. Vabbè, Games Collection, due secondi di presentazione, il sito www.gamescollection.it è fondato da Federico Salerno con Federico praticamente il sito è un punto di incontro di collezionisti di videogiochi. Io sono anch'io collezionista, però non sono come la gran parte dei collezionisti che stanno lì dentro, che sono proprio collezionisti come i collezionisti di opere d'arte esistono i collezionisti di videogiochi, quindi quello che dicono il boxato, non boxato, certo, il mint, certo. eccetera, no? Ecco, a me interessa dove il collezionismo diventa una cosa seria. No, insomma, noi collezioniamo esatto, per giocare, per usare. È il collezionismo serio, però il collezionismo serio, storico, rientra comunque nella passione della storia. storia dell'archeologia, diciamo, informatica e videoludica, perché serve proprio per il materiale, non solo fisico ma anche materiale iconografico, eccetera. C'erano delle bellissime esposte dal collezionista di proprietà di ragazzi Games Collection, per esempio gli artwork originali delle copertine dei videogiochi. C'erano gli artwork della Lucas con i disegni originali per Maniac Mansion, per esempio, e quelli sono chicche molto interessanti anche per studiare com'era la creazione del videogioco, come avveniva, come si pensava. Insomma, c'è tutta una serie di materiale collezionistico che però serve molto a chi come me ricerca quella che è stata la storia dell'informatica e del videogioco. Nel caso particolare vorrei dire che lo Standing Games Collection non ha speso una lira per fare, perché non ce li ha, è un gruppo di ragazzi di cui anch'io faccio parte, molti sono anche molto più giovani di me e appassionati di retro gaming e di collezione, ma non è un'associazione che ha soldi, eccetera. Ma lo stand che è stato creato era molto bello e fatto molto bene grazie a ASV, che era la società che si occupa dell'organizzazione della Games Week, perché se vogliamo quest'anno, se qui ci concediamo un po' di dietrologia, c'è stata una specie di certificazione del retro gaming, cioè della storia del videogioco, un po' perché c'era il personaggio che era da promuovere, cioè il fondatore di Atari, come apertura della Games Week, ma un po' perché in effetti quello che ho trovato nella Games Week di quest'anno, non c'era solo lo stand di Games Collection, c'erano anche altri stand che parlavano di retro gaming e videogioco vecchio, se vogliamo, perché è stata un po' una specie di certificazione che anche il retro gaming è un tipo di divertimento elettronico moderno. C'era per esempio lo stand della Namco che vendeva il TV game Pac-Man da attaccare a TV, che è un prodotto moderno che però al suo interno propone vecchi classici del videogioco da rigiocare adesso a casa propria, anche a persone che non erano neanche nate quando c'erano i videogiochi. Quindi l'ho trovato un po' una specie di certificazione dell'esistenza del retro gaming e di questo mondo che fa parte, che è una parte del grosso del mercato. No, io aggiungo che inizia ad essere anche una parte importante del mondo della cultura del videogioco, perché non soltanto perché adesso il retro gaming di per sé, vabbè, è anche diventata una sorta di moda, perché dimostrare che si fa retro gaming significa essere hardcore, però in realtà invece sono molto curati e molto attenti le associazioni e i siti o comunque i portali che parlano di storia, di cultura storica del videogioco. Quindi questa è una cosa veramente importante, e noi ne siamo in parte anche una testimonianza, perché ne siamo una testimonianza e ne è una testimonianza chiaramente Games Collection in maniera più vasta, perché loro sono veramente una realtà importante. Penso forse io ne conosco varie, però penso probabilmente la più importante in Italia in questo momento. Guarda, ti dico, la Games Collection è quella che ha organizzato per 3 anni a Monza una fiera dedicata al retro gaming, che credo sia stata la prima in Italia, perché se non mi ricordo male la prima edizione era del 2008. Ed è stato un grande successo per 3 anni di seguito, veramente con migliaia di visitatori, con servizi sui TG regionali, certo, della RAI, e quindi una cosa molto molto importante e che aveva avuto anche un ottimo successo di pubblico, nella quale io avevo già iniziato, collaborando con loro, a produrre della documentazione che descrivesse la storia del videogioco. Infatti l'avrete visti, chi c'è i stato, cartelloni di Carlo, i cartelloni dietro didattici della storia del videogioco che ho avuto l'onere e l'onore di scrivere, che descrivevano brevemente, quindi molto molto riassunta, che per me è una fatica immane, come sapete, riassumere la storia del videogioco degli anni 70, 80, 90 e quest'anno anche la storia del videogioco dal 2000 al 2010, che non è proprio storia, è quasi contemporaneità se vogliamo vederla, però ormai è un decennio che si può anche tentare di descrivere. Ecco, su questo ci sarebbe una piccola chicca, se volete, che vi dico, che vi racconto qua in privato, sì, tra di noi. So già cos'è. Sai già cos'è, che in pratica, mentre negli anni 70, 80, 90 i cartelloni, la storia che ho scritto è rimasta quella, in realtà quella dal 2000 al 2010 è stata, diciamo, leggermente riassunta ancora di più, perché io andavo a toccare degli argomenti storici che erano le presenze nel mercato di Sony, di Microsoft, di Nintendo negli anni che vanno dal 2000 al 2010, che probabilmente potevano urtare la sensibilità attuale degli stessi partecipanti alla espositori. È un po' come la storia contemporanea sui libri di scuola alle medie, quindi, bravissimo, cioè. Stiamo a parlare, infatti il concetto è questo, la dittologia è questa. Finché la storia non diventa molto vecchia, quasi non si può dire la verità. Non è che non avessi scritto, cioè che non mi hanno fatto scrivere la verità, però hanno tagliato gran parte degli avvenimenti. Cioè la storia di Sony che inizia nel 2000 come 2003 è stata tolta, eccetera, è diventata nel 2000 esce la PlayStation 2, punto, fine. Cioè, quindi, volevo dire una cosa, se posso, da collezionista, prego. Anch'io, più di retrocomputer che di retro gaming, piccolo collezionista per carità, a parte star male per i pezzi che c'erano lì, che erano in visione e addirittura in utilizzo, questo, Simone, va detto, il grande successo di, più che di critica, di pubblico e soprattutto dell'età molto bassa di ragazzi che si approcciavano a dei videogiochi che per loro dovrebbero far ridere. Si andava da uno stand iperrealistico con Xbox One e PS4 allo stand di Games Collection con dei videogiochi a pixeloni. E i ragazzi, sì, purtroppo, guarda, devo dire la verità che al contrario di quello che abbiamo potuto verificare quando ci fu la presentazione del Vigamus a Roma, in realtà qui ho avuto una sensazione diametralmente opposta, ossia praticamente che i ragazzi, i più giovani, erano comunque incuriositi. E questo mi ha fatto veramente piacere, che poi dopo lì comunque c'erano delle cose che, a differenza probabilmente del Vigamus al suo tempo, c'erano anche delle cose con le quali si poteva interagire in maniera molto più, infatti è questo che bisogna riconoscere, ragazzi, di Games diretta. Collection, il fatto di aver coinvolto tantissimo le persone che passavano di lì a farli giocare. Però io, sapete che mi è venuto in mente a un certo punto, quando c'era, perché c'era Giuseppe Saso, chiaramente, che poi adesso fra un po' arriveranno nella terza parte, mentre che giocava a Pac-Man per l'Atari 2006, quello che sfligera e tutto quanto, e mi domandavo a Bushnell, se oggi Bushnell vedesse Pac-Man dell'Atari 2006, che c'ha nel cielo, che gli verrebbe in mente, che cos'è il pensiero che lo attraversa, capito? Cioè, guarda che abbiamo fatto, guarda che grandezza che abbiamo costruito, oppure ci ammazza, che certo che era pieno dei difetti sto gioco. Proprio c'ho la curiosità morbosa che ovviamente non avrò mai modo di... non è vero, perché lui ha detto, dice, non sono un grande appassionato di retro gaming, lo ha detto, gli piace, comunque gli piace vederlo, però è uno che in realtà credo guardi più al futuro, nonostante giochi ancora. Sì. Lui ha detto, non sono un grande appassionato, ci gioca perché comunque gli piace, ha persino nominato, ma questo era fuori al microfono, Space Invaders, e che è tutto dire, però nonostante questo è uno che guarda al futuro, per cui non credo lo guardi, credo lo guardi come un papà o un nonno molto accondiscendente, ecco, mettiamo così. Ma guarda, da quello che mi ha detto poi quando abbiamo parlato, ricordando gli anni di Breakout eccetera, ha detto che lui ritiene importante comunque persone appassionate anche della storia, proprio perché, e quindi anche della storia del videogioco, proprio perché è importante, secondo lui, conoscere bene quello che c'è stato per poter poi avere delle nuove idee per quello che ci sarà, anche se lui ha riconosciuto che lui infatti come mente è sempre nella science fiction, SF, esatto, guarda sempre al futuro, a quello che avverrà, ha una mente proiettata verso quello che potrebbe essere il nostro futuro, ecco. Ok, allora io penso, insomma, che siamo stati abbastanza esaustivi e vi ringrazio innanzitutto sia per questo intervento che per la partecipazione a questa avventura, speriamo poi in futuro ce ne siano altre. Chiaramente ricordiamo, come ho ricordato nella prima parte della trasmissione, che a breve uscirà anche uno speciale di archeologia informatica proprio con me, Carlo e Stefano, dove parleremo, insomma, faremo una piccola cronaca molto smart di quello che è stata l'avventura che avete affrontato andando a Brusaporto per Brusaporto Retro Computing 2013, se non sbaglio, di cui avete ampia, insomma, possibilità di vedere anche lì su YouTube tutta una serie di interviste che ci permettono anche di capire insomma chi c'era, chi non c'era, e vederlo anche con mano. E quindi in realtà noi quello che faremo nella puntata audio sarà semplicemente una sorta di piccolo compendio di aggiunta, insomma, a quello che poi magari hai anche il background che forse è meno comprensibile e le cose che hanno attratto di più l'attenzione, perché insomma poi il materiale lo potete vedere. Quindi io adesso ovviamente per lanciare la terza parte della trasmissione dovrei lanciare un brano, ok? E Paganini, se vedi se vedi nella chat c'è, cioè, una frase impronunciabile, cioè un qualcosa, lo vedi la chat? Ecco, esatto, quello è il nome del brano. Quindi io dico che il brano è dei Panic, che fanno ovviamente chipset music 8-bit, quindi cose insomma che alla fine sono molto adeguate rispetto a quello che facciamo noi in questa trasmissione. Però il titolo del brano ve lo dice Paganini, perché così se ne prende la responsabilità. Se ne prende la responsabilità, io non sono assolutamente in grado. Quindi saluto Carlo, saluto Stefano. Ciao. Ciao a tutti. Ciao a tutti e grazie. E vai. Tenetevi pronti per Thought Crime. Torniamo per questa terza ed ultima parte di questo speciale di archeologia videoludica, diciamo in crossover con archeologia videoludica e archeologia informatica, sulla Games Week che c'è stata ovviamente un paio di settimane fa, forse anche tre, non mi ricordo neanche più. Vabbè, comunque c'è stata l'edizione del 2013 a Milano, e dove noi tutti siamo andati imbarcandoci in questi viaggi della speranza, soprattutto io, Giuseppe e Marco. Allora, intanto ciao Marco, benvenuto. Ciao Giuseppe, ciao. Benvenuto, buon salve a tutti. Giuseppe Saso, che vi ho detto all'inizio di trasmissione la news importante di questo nuovo podcast a carattere videoludico, e qualcuno già ha definito la sorellina di Calavera Caffè, ma in realtà secondo me è molto più ampio come tipo di discorso, che si tratta dell'occhio del Beholder, esatto. Che è questo podcast proprio completamente dedicato al videogioco di ruolo nella sua essenza più vasta, dove poi si discuterà insomma di questo tipo di tema, con vari argomenti, insomma, che poi Giuseppe tirerà fuori di puntata in puntata. Sì, non vogliamo rovinarvi la sorpresa, quindi seguiteci. Seguite poi il viral che trovate, insomma, comunque considerate che indipendentemente da quando sentirete questo episodio, il 19-11 troverete su Facebook e ovviamente su tutte le nostre pagine il riferimento a come abbonarvi su iTunes, come scaricare la puntata e soprattutto sveleremo anche quello che è il sito, fino a che ovviamente non è pronto non diciamo niente. Però insieme a noi a Milano, lui non ha fatto il viaggio della speranza, non è partito alle 5 di mattina con gli occhi mezzi chiusi. Lui ha sperato di viaggiare invece. Lui già ci si trovava abbastanza vicino, c'era anche Cesare Giraldi. Ciao Cesare. Ciao Simone, ciao a tutti. Che fantasticamente, poi lo ritroverete Cesare fra qualche giorno anche nello speciale di Halloween, che come ho detto in apertura è stato un gran successo la diretta, insomma c'è stata molta partecipazione, dove ovviamente Cesare è diventato l'uomo delle gattare egiziane, giusto Cesare? Grazie a una fantastica gag del nostro amico Simone Pizzi. Di quel simpaticone. No, ma soprattutto ci terrei a dire che Cesare è sempre l'uomo che viene accompagnato sia durante il nostro speciale perché di Halloween, non si fidano, tanto non si fidano a mandarlo in giro, esatto, solo a Milano, ecco. E sia, esatto, sì, sia infatti, durante il Games Week, tra l'altro da persone diverse, vuol dire che ho tantissimi amici e si spera con altrettanti nemici. Mi fa piacere, anche se i fratelli diciamo che non rientrano nella categoria degli amici di solito. No, certo, però al Games Week avevo l'amico Ernesto, come l'avete soprannominato. Bravo, esatto, c'era l'amico Ernesto che è bello corpulento, cioè nel senso che una sganassa di Ernesto bastava, insomma, metterci tutti quanti a posto. Allora, serve a tenere lontani i fan di Cesare, quindi erano troppi, quindi persone. No, mi ha fatto piacere perché insomma era la prima volta giustamente con Cesare ci incontravamo, è stata un'emozione, purtroppo troppo breve il tempo a disposizione, però insomma poi Cesare ha dato la sua. Allora io inizierei, visto e considerato che Cesare è il più giovane fra di noi ed è quello che studia, e cioè nel senso che lui fra un po' deve tornare a studiare, poi domani c'ha lezione che all'università. Sono schiaffi adesso, sono i genitori che lo hanno accompagnato, no, perché lo devono prendere, no, di forza. Ernesto gli dai sganassoni, sganassoni. Ma senta, lui però stavolta iniziamo proprio da Cesare, quello che è stato insomma il suo giro magari in maniera estremamente veloce, poi ci soffermiamo in maniera forse un po' più dettagliata sullo stand Microsoft, perché se non sbaglio Cesare hai avuto modo insomma di trastullarti, no, un po'. Ricordiamolo, Cesare è uno di quei facinorosi che ha buttato giù anche lo stand dell'Activision, quello dopo, sì, però l'ha fatto dopo, come si è incazzato, ha detto basta, qui c'è gente che mi accompagna e cominciato a buttare giù tutto. Cesare, almeno la copia di Call of Duty te la sei accaparrata? No, purtroppo no, perché la mattina avevo lezione appunto in università e quindi mi sono dovuto andare dopo. Male. Le lezioni si saltano per Call of Duty. Una giustificazione. Magari. Una giustificazione. Allora, diciamo che Cesare, oltre insomma a quello che poi magari ci dirà velocissimamente di aver visto, diciamo che ha avuto modo di trastullarsi con l'Xbox One, se non sbaglio, Cesare. Esattamente. Allora, partiamo con questa specie di strumento multimediale che Microsoft ci vuole appioppare. Esattamente, che tanto multimediale non sembra alla fine. Andando in ordine cronologico, diciamo che sono entrato nel primo stand, ne ho scelto uno a caso perché c'era scritto semplicemente Xbox One, non avevo idea di cosa ci fosse dentro, e c'era una fantastica Xbox One con il Kinect 2.0, quindi non ho fatto un grande affare entrare lì dentro. E mi hanno fatto provare appunto il nuovo Kinect, che direi che non mi sembra molto diverso dal precedente. Sì, sarà più preciso, sarà più performante, ma mi sembra che ci sia ancora un lag e una imprecisione di fondo che lo rende abbastanza discutibile per i giochi hardcore. Ma secondo me quello è perché tu sei chiaro de carnagione. Quindi non mi rilevavo. Col primo Kinect c'era il problema opposto, col secondo Kinect invece. Scusa se mi intrometto, Cesare. Sì. Il Kinect con cosa l'hai provato? Cioè con la dashboard o anche con qualche altro gioco? L'ho provato con un giochino stupidissimo di cui non so nemmeno il nome. Una cosa molto, molto basica. Era un minigame di qualche collezione particolare che uscirà col Kinect. nello tipo specifico fai la calza col Kinect 2.0, queste cose qui. nello specifico era una sorta di gara di moto d'acqua ed era fatta anche ok, l'ho provato pure a Colonia. Allora, quello che hai provato è uno dei titoli di lancio per Kinect, che è della serie Kinect Sports. In particolare questo è Kinect Sports Rivals, qui, se non qui sbaglio ci sta proprio un megoglione, insomma. Come ti è sembrato questo della moto d'acqua? Perché comunque me, diciamo, non so se per esempio la stanza line dello stand Microsoft era abbastanza realizzata ad hoc, no, per facilitare il riconoscimento del sensore, ma il feedback era abbastanza preciso, almeno quando l'ho provato io a Colonia. Per esempio in questo gioco, dove appunto in questo minigioco dove devi andare, devi guidare una moto d'acqua e fare anche le varie, mi pare, acrobazie, poi per esempio anche lui riconosce addirittura questa volta il Kinect 2, se non sbaglio, il movimento proprio delle dita, quindi capisci che quando impugni in una certa maniera puoi accelerare la moto d'acqua, per esempio. Esatto, però questa cosa era accompagnata per esempio dal fatto che per accelerare, oltre a muovere le dita, perché non sempre te le riconosceva bene, dovevi anche inarcare la schiena all'indietro, e quella era la cosa più scomoda del mondo da fare. Cioè, è una cosa totalmente senza senso, anche per curvare era, come posso dire, tarato uno a uno sui movimenti, e quindi... uno per curvare a destra con una certa angolazione doveva piegarsi con quella stessa angolazione, quindi praticamente era una roba ingiocabile, perché diciamo che spezza la schiena. Cioè, finisci dopo 5 minuti che hai un'ernia multipla, cioè, no? Vai diretto all'ospedale. Vabbè, comunque ritorniamo a quello che abbiamo già detto, che comunque questi nuovi ausili per videogiocare, insomma, alla fine in realtà non sono poi così universali, anche quando diventeranno estremamente precisi. E poi questo è un discorso che torneremo a fare anche dopo, magari con Peppe, quando parleremo anche dell'Oculus Rift. Sì. Comunque, poi a parte sta corsa in moto d'acqua, diciamo che ho provato le esclusive di lancio, che sono molto più interessanti. Ho provato 4 giochi: Forza 5, Dead Rising 3, Killer Instinct e Rise. Finale, gioco con i romani. Simone, sei contento? Ci stavano pure i romani, se vi ricordate. Cioè, quello, sono romano, io, fate la foto con me, capito? Dai, partiamo proprio con Rise, che è forse quello che mi ha deluso di più, a sorpresa direi. Ma in realtà sta cosa che sarà un gioco deludente, in qualche maniera si sente nell'aria già da parecchio tempo. Addirittura, scusate sempre se mi intrometto, è notizia di oggi che il gioco verrà rilasciato al lancio con una parte monca della componente multiplayer. Sì, vabbè, ma quello ormai lo fanno tutti. Ormai lo fanno tutti, purtroppo, per la questione dei DLC, ma è un brutto modo di fare ormai. Ma invece a livello di gameplay, cioè questo praticamente hack and slash con alla God of War con le finisher, come ti è sembrato? Facile, difficile, con controlli che insomma premevi a caso e partivano cose, oppure sembrava abbastanza tecnico, ecco? No, era abbastanza un God of War in salsa romana, diciamo. Quindi, dato che ho giocato tutti i capitoli di God of War, giocando a Rise mi sono trovato a casa, però era un po' dio della guerra, insomma. Sì, il concetto della guerra. Addirittura c'era proprio la stessa questione di scegliere la divinità del personaggio, come il multiplayer di Ascension, cioè proprio preso pari pari. La divinità da bestemmiare in caso di morte. Per bestemmiare il dio giusto. Non mi è piaciuto così tanto perché è veramente troppo God of War. L'unica cosa per cui secondo me un utente potrebbe prendere Rise, ci sono due ragioni fondamentalmente. Una è vedere che cosa può fare l'Xbox One graficamente. E la seconda è giocare a un titolo tipo God of War se non hai mai avuto una console Sony, quindi non c'è mai potuto giocare. Perché altrimenti che quindi sopperiva la mancanza di un God of War Microsoft, fondamentalmente. Sì, è più o meno la stessa cosa che hanno fatto con Forza, cioè mi sembra creare un franchise da zero per contrastare un gioco della concorrenza. Gran Turismo. Esatto. Che se Dio vuole si contrasta da solo, insomma. Ultimamente sì, purtroppo. No, beh, il 6 promette anche spettacolarità, anche tu. Stanno le stelle. Le stelle nell'ordine giusto. Senna. Vabbè, quella di Senna è una cosa un po' più macabra, quasi inquietante. Però ripercorri la carriera di Senna fino alla fine. Fino alla morte. Bellissimo. Ok, ma questa cosa che addirittura era molto God of War non l'avevo capita. Cioè, avevo capito che era un tipo di action di quel livello, però insomma, poi questa cosa insomma di quick time event che sembra che sia abbastanza infarcito, cioè l'hai trovata o è solo una speculazione che si faceva nei forum per fare polemica? È una bella domanda, perché nella demo quick time event non ce n'erano, perché era una sorta di arena dove i nemici arrivavano e non era quindi un livello della campagna. Secondo me quick time la modalità frotte, insomma. Sì, esattamente. E invece... quindi non era un pezzo della campagna? No, era. Questo può essere fuorviante. Era secondo me un pezzo del multiplayer. Esatto. È praticamente diventato il gioco. Il multiplayer è il gioco di Spartacus, fondamentalmente, no? Interessante sta cosa. Però. Vedi. Peccato, perché in realtà poi alla fine allora non è neanche indicativo. Poi. No, neanche tanto. Secondo me potevano scegliere anche una demo un po' diversa per mostrare come era fatto il gioco. Cioè. Affrontare 5 minuti di questa arena per me, che ho giocato God of War e quindi comunque ero abituato a certi tipi di comandi, è stato comunque difficile. Sono morto una volta. Secondo me, per chi non ha mai provato un gioco del genere, cioè era quasi impossibile, la difficoltà era veramente alta. Questa è la mia impressione, perché mi dava l'idea di essere una sorta di orda, appunto, alla Gears of War, cioè ondate di nemici di difficoltà crescente che arrivano fino a che non ti ammazzano, in sostanza. Ok, però come ha detto Giuseppe, questo gioco mette alla prova le potenzialità della Xbox. Allora, queste potenzialità della Xbox? Beh, direi che sono buone, graficamente è impressionante. Molto fluido, molto dettagliato, non credo ci siano delle critiche da fare da questo punto di vista. Quindi, secondo la tua opinione, Crytek ha fatto un buon lavoro? Direi di sì. Mm-hmm. Anche perché forse è l'unica cosa che sa fare bene. Ricordiamo che appunto Rise è realizzato da Crytek, che sono gli stessi che hanno fatto la serie Crysis. Esatto. Che fa Cry. E anche il CryEngine, insomma, che esatto. Tutto ciò che è Cry ormai è allora. Esatto. No, che poi vabbè, poi bisogna vedere quanto, no, nel senso, come si diceva anche negli Uncharted o in The Last of Us, quanto poi in realtà il magheggio tecnico, no, il mascherare comunque i limiti dell'hardware arriva, insomma, è preponderante rispetto poi invece alla qualità reale dell'hardware. Però poi magari il problema è che non possiamo ancora fare un paragone tra le due macchine della nuova generazione. Però vabbè, detto questo, perché giocano a carte scoperte, giocano, no, perché secondo me poi l'Xbox c'ha il vantaggio che uscirà con dei titoli più potenti rispetto probabilmente a PS4, che magari dovremmo aspettare un po' di più per avere magari nelle prime fasi, insomma, dei titoli che possono essere soprattutto Simone, nelle prime fasi dovremmo aspettare proprio perché c'ha pochi giochi al lancio. Esatto, c'ha veramente pochi giochi, sebbene io comunque continuo a pensare che PlayStation 4 sarà la vincitrice di questa generazione. Poi Cesare, allora gli altri due giochi? Andiamo avanti con Dead Rising, una demo direi molto più interessante. Era una sorta di, secondo me, antipasto del gioco, perché ti buttava subito su schermo delle onde, delle orde di zombie che tu potevi affrontare come volevi. E avevi, cioè, erano demo a base di orde, insomma. Esattamente, modalità frotte ovunque. Esatto, però qui la mappa sembrava aperta, quindi poteva essere una parte di campagna. Non era chiarissimo, non l'hanno detto, quindi io suppongo che sia una parte di campagna. In ogni caso, era pieno di zombie che potevi fare veramente fuori nei modi peggiori. Ad esempio, a un certo punto ho stufato delle armi da fuoco, ho preso una panca e ho tirato in testa a ogni zombie che mi passava vicino. E la cosa interessante è l'interazione con lo scenario, non solo gli oggetti che puoi usare appunto contro gli zombie, ma si può entrare, a quello che ho visto io, in quasi tutti gli edifici presenti nella mappa, e questa mappa, a quello che avevano detto, stando alle news che erano uscite, sarà molto grande e quindi sembra molto adatta per un gioco appunto free roaming come Dead Rising. Addirittura mi hanno detto, che credo che fosse uscita anche questa come notizia precedentemente, però mi hanno detto che una delle caratteristiche per esempio del Kinect è il fatto di rilevare i rumori dell'ambiente esterno, e quindi giocando a Dead Rising, se ad esempio tu fai casino per una qualsiasi ragione, non lo so, ti cade un libro o cose del genere, il Kinect lo rileva e gli zombie potrebbero sgamarti e venirti addosso. Per cui mi raccomando, ragazzi, quando quando il 22 uscirà Xbox One, non giocate a Dead Rising di mattina, soprattutto se ci avete sotto casa i mastri con i lavori. No, ma cioè, altrimenti mi sgamano tutti. Cioè, non ci potrei giocare neanche la notte, perché io, per esempio, ho quella di sopra che la bambina piange tutta la notte. Satana, compreso in questo momento, sta piangendo, però, ovviamente, grazie ai potenti mezzi di IPN, voi non lo sentite. Ma cioè, noi siamo, ascoltiamo Girardi che parla con. Vabbè, Cesare, posso farti solo altre due domande su Dead Rising? No, beh, hai. Sì, vai. Dimmi, no, prego. Tu hai provato anche i veicoli? No, che... purtroppo no. Ah, perché diciamo, lo chiedevo perché è una delle cose anche che hanno sempre sbandierato alle varie fiere, eccetera, è la possibilità che ora puoi anche modificare pure i veicoli, non solo diciamo li puoi guidare, ma puoi tipo prendere un furgone e poi prenderci anche altri pezzi tipo delle lame e farti il furgone che c'ha le lame laterali rostri, insomma, per tagliare gli zombie o cose del, oppure montare sopra il furgone una torretta che poi nella modalità co-op può essere pilotata indipendentemente da un secondo giocatore. Purtroppo però queste feature ovviamente non erano presenti, anche perché non avevo di 5 minuti, non aveva neanche senso. Non c'era tipo neanche accanto lo smart, un tablet per provare pure le feature di smart glass? Ovviamente no, anche perché in realtà c'era, insomma, se lo sono culato durante la mattinata, no, purtroppo non c'era perché per questioni di connessione, non mi hanno spiegato. Cioè, dato che c'erano un po' di PC collegati, quindi sostanzialmente non funziona. È davvero la fiera italiana dei videogiochi. Esatto, e l'hanno dimostrato in ogni modo, infatti Smart Glass non funzionava e quindi hanno rinunciato, hanno tolto tablet e smartphone perché hanno detto che non poteva andare. Vabbè, un po' una figura. Faccio solo una piccola così, tanto per delucidazione per gli ascoltatori che magari non sanno, questo funzionamento Smart Glass, in particolare con Dead Rising, ti consente di utilizzare alcune feature del gioco, come per esempio vedere la mappa sul tablet, oppure siccome il gioco, come sanno chi è che ha sempre seguito la serie, tu ricevi telefonate da parte dei superstiti per andarli a salvare. Ora diciamo le telefonate le ricevi attraverso il tablet, quindi il tablet che tipo di squilla accanto, esatto, e addirittura alcune missioni sono, diciamo, le puoi ricevere solo se hai appunto il tablet con smart glass attivo, fondamentalmente. Sono delle feature comunque interessanti se implementate bene. Direi di parlare. Ma le chiamate sono a carico del destinatario? Chi sta dando chiamano, insomma. Andiamo avanti con Forza 5. Provato purtroppo con il controller e non con il volante, però è stata una prova interessante proprio per testare i grilletti del controller, che tra l'altro hanno anche due motori per la vibrazione, e quindi la cosa aspetta, specifichiamolo, vibrano i grilletti, esattamente, sì, il controller dà un maggiore feedback anche ulteriore alla vibrazione del joypad, insomma. Esatto, perché nel ovviamente ti cade dalle mani. Si inizia a vibrare tutto perché normalmente il controller dell'Xbox 360, se non sbaglio, ne aveva solo due, quelli nei cornetti, e invece quello dell'Xbox One ne avrà 4, e tra l'altro questi potranno anche vibrare indipendentemente l'uno dall'altro, e questo può essere molto utile ad esempio appunto nei giochi di guida, dove non lo so, l'ABS ad esempio si può far sentire con un po' di vibrazione o altre cose ancora, o per esempio l'impatto con i cordoli, la prima cosa che mi viene in mente la senti con la vibrazione sui grilletti. E la prova è stata abbastanza direi soddisfacente, perché il gioco sembra rispettare tutte le aspettative a livello di gameplay puro, anche se poi a livello di contenuti hanno confermato che uscirà un po' ridotto rispetto al capitolo precedente, perché avrà circa la metà delle auto e, se non sbaglio, una quindicina di circuiti, una cosa del genere. Quindi... Vabbè, c'è sempre la strada del DLC ormai. Sì, sì, mi si sono sbrigati a farlo uscire con l'Xbox, insomma. Quindi. Esatto, quindi è anche un lato negativo questa cosa, ovviamente, perché poi ci rifileranno tonnellate di DLC a pagamento. E posso dire che è anche un lato negativo, è anche un lato negativo. Sì. Esatto, bravo. Esatto. Il lato simulativo non era così probabile, perché ovviamente essendo una gara singola ed essendoci probabilmente degli aiuti attivati, perché era appunto una fiera, non era così chiaro fino a che livello arrivasse a simulare la sì, guida vera e propria. Vengono messi a livello ultra semplice, perché insomma, cioè, se no. Sì, esatto. Ultra semplice no, non credo, magari perché magari se sentiamo pure quello che ci dice, però non è che forza puntasse esclusivamente o soltanto in maniera così potente sulla simulazione, quanto magari più sul forse anche più sul di non è un gioco arcade, chiaramente, ma non è manco, cioè non è neanche Gran Turismo da quel punto di vista, penso, no? Beh, io direi che a livello di come penso che stava dicendo Cesare, a livello di customizzazione comunque siamo molto vicini. Sì, sì, Forza è un'ottima alternativa al Gran Turismo di una volta. Se un utente vuole giocare a un gioco di guida una volta. Esatto. Le macchine si ammaccano. Perché sai che ogni volta che escono sti giochi c'è la gente che chiede: ma se rompono le macchine, si ammaccano? Sì, in forza i danni ci sono dal 3 o dal 2, non mi ricordo. Invece in Gran Turismo praticamente non ci sono ancora adesso. A meno che non c'hai la macchina deluxe model edition. Eh no, ma nemmeno, so perché lì sono proprio delle ammaccature minime in ogni caso dei graffi. Pre-renderizzate. Sì, comunque gli urti in Gran Turismo sono una roba indecente, cioè sembra che si scontrino, non lo so, due palline di gomma, cioè una roba... Vabbè, meglio parlare di Forza. E quindi per chiudere su Forza direi che anche graficamente non è male, è decisamente di un livello alto, secondo me mostra i muscoli della console fondamentalmente. Come titolo di lancio fa il suo dovere. Okay, ma la PlayStation 4 l'hai provata? La PlayStation 4 l'ho provata solo con Assassin's Creed. Ok, ma cioè se vuoi provare ad azzardare magari un'impressione comparativa, ovviamente ribadisco, secondo me PS4 ancora non c'ha neanche i giochi per poter fare un discorso del genere, e soprattutto Assassin's Creed è un gioco transgenerazionale, diciamo così, perché comunque perché comunque fa parte della generazione attuale e della prossima generazione, quindi non è che secondo me poi alla fine è analizzabile da quel punto di vista. Allora, se vuoi buttare giù così, proprio avventurarti e farti odiare, perché lo facciamo fare a te chiaramente, perché sei il più giovane, perché va via subito e quindi perché da dove stai per andare via, allora ci facciamo fare questa cosa bruttissima, il gran finale proprio. Beh, il confronto non è così facile, poi vabbè, avendo provato appunto Assassin's Creed, che è anche multipiattaforma tra l'altro, non è nemmeno esclusivo, e quindi tra l'altro anche questo problema, perché se si guarda ad esempio The Last of Us, cioè essendo esclusivo è una roba che a livello grafico è decisamente certo. È decisamente studiato per l'hardware. Per quello che ho visto direi che dai, si equivalgono, secondo me bene o male si equivalgono, anche a livello di specifiche, se non sbaglio sono molto simili, giusto l'Xbox aveva una RAM più lenta di DDR3, invece la Play 4 montava una RAM che era un pochino più veloce, però su questi titoli di lancio non è che si vedesse più di tanto. Io ho visto Killzone giocato da da altri, perché purtroppo non ho potuto provarlo, e mi sembrava bello, però non era una cosa trascendentale rispetto all'Xbox One. Secondo me sono paragonabili a livello grafico. Quindi insomma, da quella prima uscita che abbiamo fatto live quella volta durante la presentazione di Xbox Live, di Xbox One, insomma, tutto i dubbi che c'eravamo portati dietro, Xbox, esatto, Antani. Xbox Antani, diciamo che un po' ha recuperato terreno, secondo te? Sì, decisamente sì. Tra l'altro mi è venuto in mente che ho tralasciato Killer Instinct. Sì, vabbè, ma mi quello stavo dimenticando. Picchiaduro, insomma. Beh, ma non era male per nulla. Aveva solo un difetto, che l'ho provato con l'arcade stick, contro tra l'altro un avversario proprio lì in fiera, che ho tra l'altro distrutto 2-0 tra parentesi. E... ma sì, dai, scuotiamo un pochino, dai. E, aveva solo un difetto, che era un leggero input lag. Non so da cosa dipendesse, però avevo la sensazione che quello che risultava a schermo era leggermente in ritardo rispetto ai comandi, ed è una cosa abbastanza fastidiosa e non picchiaduro se fosse confermata nella versione finale. Oserei dire che è orribile, cioè il caso peggiore, perché sì, è proprio una cosa critica nel picchiadura, che diciamo, le mosse ti entrano subito se è un gioco estremamente tecnico, esatto. Quindi... sì, ma era una cosa così impercettibile che ho dovuto fare due partite prima di rendermi conto che in effetti c'era, quindi è una cosa fastidiosa, però in quel caso è un po' borderline, non è netto, non è evidentissimo. Invece le gestioni delle collisioni e le hitbox si sembrano abbastanza fedeli, precise, no? Proprio direi di sì. Sì, secondo me è un titolo valido Killer Instinct. L'unico dubbio era sul fatto che fosse un free to play, perché avevo sentito questa cosa, e quindi dipende come lo venderanno, ovviamente. Se per ottenere tutti i personaggi e tutti gli vendono stage, i personaggi, se non sbaglio, giusto? Non mi ricordo purtroppo. Il modello di business dovrebbe essere appunto che hai solo un solo personaggio, poi gli altri se vuoi te li puoi comprare, o addirittura se vuoi sin dall'inizio nulla ti vieta di comprarti il pacchetto completo, insomma. Esatto, e quello è il mio dubbio. Con il quale costo... personaggio tu l'hai provato? Se compri il pacchetto completo, magicamente sparisce anche il lag. Esatto, che anche questa feature esatto. Nascosta. Con quale personaggio l'hai detto che hai giocato? Tu? L'ho giocato con l'ho giocato con Pagliaccio Baraldi, penso. Non me lo sono appuntato e non me lo ricordo. Perfetto. Vabbè, che personaggio era? Vale, esatto, c'aveva le tette, c'aveva il pelo che era tipo la specie di licantropo. Cyberwolf, no. No, vabbè, non era un personaggio femminile, non era un licantropo. Descrivicelo. Ok. Era un personaggio maschile, abbastanza standard da picchiaduro. Classico malcione pompato. Esatto. Vabbè, lo è medio man. Sì, esatto. Vabbè, allora. Cesare, hai 2 minuti per farci una panoramica veloce, insomma, se hai visto altre cose che magari hanno attirato la tua attenzione o ti hanno divertito, ma anche a prescindere, insomma, dal videogioco, così nell'ambito di quello che è il contesto della fiera. Allora, citerei un altro gioco interessante che ho provato giusto prima di uscire dalla fiera, ed è Rayman Legends, che è già uscito, però non avevo ancora avuto possibilità di provarlo. L'ho provato sia per Wii U che per PS Vita, ed è molto interessante, soprattutto se giocate in cooperativa, e io l'ho provato appunto in cooperativa, e su Wii U è interessante poter muovere il personaggino, che mi sembra si chiami Murphy, con il tablet, mentre il compagno può muoversi come se avesse il classico joypad tra le mani, ed è una cooperativa, diciamo, asimmetrica, molto molto interessante secondo me. Citerei un altro gioco al volo, che è Dark Souls 2, che non ho potuto provare, ma ho potuto vedere per 5 minuti buoni, e mi sembra molto simile al primo, e quindi questo, già solo questo, lo rende degno di nota, perché un gioco come Dark Souls che si mantiene nel tempo, mantiene la propria il livello di difficoltà e quindi i propri pregi, potrebbe essere molto interessante come gioco su PS3. Altre cose, direi Il Contorno della Fiera, che è molto interessante, è un il posto non è così grande, però il modo in cui era organizzato era abbastanza piacevole, anche se ovviamente aveva i suoi difetti perché è fatto in Italia, quindi già solo questo nell'organizzazione sì, no, è un malus. A livello di organizzazione sono stati molti mm-hmm. problemi per noi che poi l'abbiamo dovuta c'è vivere. Considera che c'è gente che ancora sta cercando la sala conferenze. La sala di personale, esatto. Sì, esatto. No, no, infatti vabbè, questo adesso... Mentre invece altra gente è rimasta seppellita nella stanza con i pasticcini mangiucchiati, no? Mamma mia, guarda ragazzi. E ormai decomposti. Sì, sì, sì. E poi dopo ti guardano strano, ma Cusilè che fai? Ti sei mangiato tutto? Io veramente sono appena arrivato, ma comunque. Vabbè, ma detto questo, Cesare, ti ringraziamo. Purtroppo, cioè nel senso è un po' una procedura anomala, però insomma dobbiamo rispettare il fatto che Cesare studia prendi il pezzo di carta, no, che il pezzo di carta già l'ha preso, prendine due dei pezzi di carta, pure tre, meglio di uno. Noi facciamo sempre il tifo per Cesare, ci fa sempre piacere uno averlo conosciuto, due aver avuto modo insomma di far entrare in questa trasmissione anche una persona che per quanto giovane sia insomma dimostra di avere una certa cognizione, capacità critica, che questa insomma è una cosa molto interessante e può insomma dare spinta anche a dietrologia videoludica. Quindi grazie Cesare della tua partecipazione. Grazie mille a voi. Se grazie. Ti promuovo nel fine anno ti do 5 euro. 5 è un burro. Così ce vai a fare vacanze. Magari il prossimo anno, se ci prende la botta da matti e riusciamo a averci un po' di donazioni, ce ne andiamo tutti a Colonia, eh? Giustamente, mi sembra giusto. A trombaccio le colonie. Anche perché diciamolo che Games Week, cioè a parte le persone che stavano dentro, sì, insomma stendisti o cose del genere, c'erano delle belle ragazze, praticamente zero, ma... sì, c'era poca insomma, roba, c'era poca roba, ecco, c'era poca roba, dai, va uno, bene, se uno va lì per quello. Ciao Cesare, alla prossima. Ciao, ciao a tutti. E va bene, allora salutato giustamente Cesare, siamo rimasti noi che siamo poi quelli della spedizione di Roma, uh-huh. E andiamo a concludere questa terza parte di questa trasmissione anche prima magari di dire quello che abbiamo visto, diciamo che ci siamo organizzati anche grazie a Michela De Paola che ringraziamo insomma per il lavoro di pianificazione, di logistica insomma che ha fatto, anche supportata da Roberto Bertoni, uh-huh. Abbiamo preso sto treno Italo, diciamo, andiamo un attimo proprio al volo, perché poi su allgamesitalia.net è uscito l'articolo di Marco che ha fatto un po' una sorta di cronistoria e tra l'altro c'è un nostro ascoltatore, uno del forum di All Games Italia, Marcocio, che ha detto: ah, ma voi siete di Monterotondo? Beh, a parte che lo diciamo da una vita, però lui lo ha scoperto vedendo una delle foto che abbiamo postato praticamente, che alla stazione di Monterotondo alle 5 di mattina non c'era praticamente millanta nessuno. Di aver visto insieme a me Indiana Jones l'ultima crociata, ma mi sembra che mi sa di no, è vero, perché abbiamo visto che te tra l'altro l'ultima crociata? No, l'ultima crociata, l'ultima merdata, scusa, il teschio di cristallo, che ne so, no, eravamo, sì, mi sa che eravamo noi al cinema, allora c'è un flash, ma comunque è il cugino di un nostro amico, di un nostro amico, quindi vabbè, lo salutiamo, ci fa piacere. E quando siamo arrivati alla stazione di Burtina la situazione non era tanto diversa, perché oltre a Giuseppe Saso c'era poca altra gente, c'era altra poca gente decomposta, ah, sì. Quindi, abbiamo preso Italo e c'è gente che ci ha preso in giro perché diceva: Pizzi, ma che hai prenotato tutto il vagone? No, in realtà c'eravamo veramente solo noi su quel vagone. Ah, e c'era una persona morta da una parte, in realtà me ne sono accorto soltanto quando stavamo scendendo dal treno. Italo, insomma, che il treno ci ha piacevolmente sorpreso. Tranne wireless, vabbè, vabbè, wireless che ma noi stavo nella configurazione pezzente, devi sempre, normale, vabbè, ma devi sempre considerare che stai su un treno, che per quanto quindi, possa essere, non è che ed era anche un treno talmente veloce che è più veloce del wireless, quindi voi considerate questa cosa. ed era anche un treno infestato dagli spiriti, ricordiamoci. Ah, già, sì, è vero. Abbiamo anche le prove, ci sono adesso video che usciranno piano piano questi stessi giorni, perché ci sto lavorando, sono cose. Abbiamo avuto purtroppo un incontro con Aire, triste. triste, un triste incontro con, con l'altro mondo, con l'altro con mondo, l'inframondo, diciamo così. E, però comunque treno comodo anche nell'ambiente smart, si chiama la classe Pezzenti, sì. Si chiama ambiente smart, e devo dire io sono stato comodo e siamo stati bene, ma sia andata che ritorno. Arrivati lì, l'organizzazione di Milano Caput Mundi è andata in tilt, è andata subito in tilt. Come siamo arrivati, cioè, la metropolitana non funzionava. Arriviamo alla Games Week, nessuno, e dico nessuno, neanche in sala stampa sapeva dove stava sta sala conferenza di Bascia. Quelli che stavano dentro la sala stampa praticamente, cioè, non ci frega un cazzo, stiamo qui, mangiamo, ma no, anche gente che c'aveva il tesserino dello staff, cioè proprio non sapevano niente assolutamente. E per trovare sta cosa è stato come camminare dentro al TARDIS praticamente, cioè nello spazio e nel tempo eravamo perduti. E grazie al cielo che sta conferenza è iniziata con un'ora e mezza di ritardo, perché sennò ce la saremmo praticamente persa. Invece siamo arrivati proprio precisi con l'inizio di questa conferenza, che poi ovviamente hanno raccontato Stefano Paganini e Carlo Sant'Agostino nella parte precedente, nella seconda parte di questo episodio. E poi noi ci siamo potuti dedicare praticamente all'esplorazione della Games Week. E a questo punto io andrei da Giuseppe, perché Giuseppe anche lui ha avuto modo di fare alcune esplorazioni, insomma, nel senso ha potuto, diciamo che a parte, ecco, la panoramica veloce di quella che è stata la tua idea e di quello che ti ha incuriosito di questa fiera, poi andiamo a parlare magari dei due test, insomma, sì, più importanti, più rilevanti che hai fatto, che sono appunto l'Oculus Rift, di cui Giuseppe poi ha pubblicato un articolo su organizzitalia.net, e Bayonetta 2. Allora, io purtroppo metto subito le mani avanti dicendo che sono abituato male ovviamente a fiere appunto più grandi come quella di Colonia eccetera, quindi vedere sia la location dove si trova, dove è stata ospitata questa nuova Games Week, sia quella dell'anno scorso, che non era la stessa ovviamente, e, insomma, è praticamente un po' desolante ovviamente, perché non per darvi un'idea, quello che avete visto voi equivale a malapena a una delle 9, delle 10 hall dell'enorme Coel Messe di Colonia, per darti un'idea. Quindi immaginati la. No, ma non fa fatica. Esatto. Non fa fatica esatto. Immaginarlo, voglio dire. Poi, vabbè, come titoli. In particolare c'erano più o meno demo che già appunto avevo pure avuto la sfortuna di provare già in precedenza a Colonia, quindi è il motivo per cui fondamentalmente ho preferito dedicarmi, che è sempre un piacere, all'area quella degli amici di Games Collection, comunque per poter, insomma, infatti se si ricorda Marco, ho giocato anche un pochettino sia col Vectrex che con il MAME, dopo che tu l'hai rotto però. Divertente, sì. L'ho riparato perché ho visto la foto dei Morandi che ci giocava. Ma addirittura a me aveva fatto impressione che c'era come si chiama uno dei capoccia che ci avete fatto pure un'intervista di Games Collection, che aveva proprio, se ti ricordi, smontato per vedere dove era il difetto, ha proprio smontato la scheda sotto del dove c'erano i micro switch dei pulsanti. Abbiamo anche fatto una sfida a Pac-Man, esatto, a Donkey Kong e anche a Pong, dove ho perso, se ti ricordi, ho perso malamente. Però c'è l'immagine di Giuseppe, anzi c'è il video di Giuseppe che gioca a Pac-Man, quello dell'Atari 2006 che flickera, sì, che insomma, sì, secondo me quello è un test per dimostrare che sei veramente oltre, e soprattutto se non soffri di epilessia, esatto, ricordiamo, esatto. E siccome che non l'abbiamo visto muoversi in maniera convulsiva, come si dice, in realtà insomma abbiamo capito che Giuseppe, no, in realtà per quello sono bastate le luci del sensore sul soffitto nella camera d'albergo, se ti mamma ricordi. Mia che fastidio. Ragazzi, io va bene, se non mi è mai capitato nella vita, cioè nel senso, mi sto per addormentare, a un certo punto apro gli occhi e nel buio vedo una luce lampeggiante rossa e dico che cazzo, cioè che c'ho, che mi sta succedendo qualcosa, perché pensavo, dico, come questa invece, è la morte che si avvicina, esatto, no, invece in realtà c'è questo sensore antincendio che lampeggia veramente. Vabbè, ma sono cose che succedono, basta che chiudi gli occhi e passa tutto. No, io però so che c'è quel LED lì che lampeggia, oramai che ti guarda, sono LED fissa, che ti guarda, l'ho scritto oggi pure su Facebook, quindi vabbè. Comunque io appunto, quindi ho deciso alla fine fondamentalmente, a parte, vabbè, di dare supporto a voi e quindi anche con le varie foto che abbiamo fatto, twittare, tutto il resto, guidarvi eccetera, ho preferito alla fine focalizzarmi solo su due cose che mi interessavano, che erano appunto l'Oculus Rift, che abbiamo provato presso lo stand degli amici di IGN Italia, e poi il secondo giorno all'apertura, che, perché fortunatamente se avevi il pass stampa potevi evitare la fiumana di bimbi minchia, se ti ricordi, messi in attesa per entrare. Il sabato, e quindi, è stato impressionante. Infatti sapendolo dal giorno precedente, mi sono subito fiondato, se vi ricordate, presso lo stand Nintendo, dove ho provato nell'unica postazione disponibile la demo di Bayonetta 2 per Wii U, che poi tra l'altro stava lì, nel senso, c'è questa postazione con Bayonetta 2, nessuno che dice oh c'è Bayonetta 2, oppure venite a provare Bayonetta 2, o qualcuno ti dava informazioni, niente, cioè, a malapena, se ti ricordi, c'era una delle varie cosplayer, credo proprio con pagate da Nintendo, che faceva appunto Bayonetta. Sì, tristissimo. Non rendeva giustizia all'eroina, alla controparte videoludica digitale. Era anche una persona molto triste di suo, insomma. Era un po' Bayonetta, era. Esatto. Bayonetta, esatto, sì. Allora, rispettiamo anche queste ragazze che fanno il loro lavoro, però in effetti, cioè, insomma, dai, con qualcosa di meglio Nintendo poteva anche, invece era molto più impegnata a fare le maschere di Pikachu Link e Zelda, esatto. Allora, iniziamo appunto con quello di IGN Italia, che tra penso il primo giorno ci siamo recati io e Marco alla fila, a fare la fila ovviamente anche là, perché ho provato a corrompere Sole, ma purtroppo mi ha detto fatti la fila lo stesso. Vabbè. Comunque sono stati sempre gentilissimi gli amici di IGN, quindi per questo li salutiamo e li ringraziamo. Ed era praticamente loro nello stand avevano questo dev kit dell'Oculus Rift, perché ricordiamo tuttora è in vendita solo il prototipo al modico prezzo di €300, $300, scusate. E questo dev kit fondamentalmente che era differisce quindi... perché ha comunque i monitor interni sono in bassa risoluzione rispetto a ha solo il visore con i vari monitor in bassa risoluzione, che poi in realtà sono, come ho scritto pure nell'articolo di oggi, sono in realtà la visione che dovrebbe essere 1280x800 a 221 ppi, in realtà è, dobbiamo considerarla divisa per ciascun occhio, quindi si riduce a 640x800. Ed è ovviamente questo visore era collegato anche al PC, dove il mirroring ti faceva vedere a tutti gli altri sul monitor quello che tu stavi vedendo con i tuoi occhi, no? Cioè, una delle cose particolari che mi ha colpito purtroppo in negativo è che non avevano pensato i ragazzi di IGN a magari fornirti anche di un paio di cuffie, perché ovviamente questo è perché l'Oculus Rift appunto è solo il visore, cioè come apparecchiatura, quindi l'audio è a parte appunto. Poi in realtà neanche c'è stata una vera e propria fase di taratura, perché ricordiamo purtroppo allo stato attuale, se non viene tarato bene sia con le lenti pulite che anche proprio col set di lenti, perché il dev kit viene con tre diversi set di lenti che appunto sono a seconda dei tuoi possibili delle diottrie, dice. Esatto, le tue diottrie, quindi se sei astigmatico o miope eccetera devi usare un altro tipo di lente diverso. Invece a me sembra che non abbiano mai cambiato niente. No, non credo, infatti. Mettersi lì a smadonna, no, cioè. Esatto. E purtroppo appunto se non è ben calibrato, la lente non è pulita eccetera, nel lungo periodo già dico dopo un paio di minuti puoi comunque cominciare a insorgere alcuni problemi appunto di nausea e di motion sickness fondamentalmente. La demo, quella che ho provato io, che non, mi pare che è anche la stessa che ha provato Marco, ma non tu Simone, se non sbaglio. No, la mia era lo stesso, esatto. Ma erano due livelli diversi. Sì. Ah, era sempre con Half-Life 2. No, perché in realtà il dev kit viene fornito con Half-Life Half-Life 2 e poi un altro che secondo me era quello della morte, che forse noi ci siamo tutti evitati o proprio non hanno mai messo, che è una specie di ottovolante. No. Lo potete trovare online perché proprio quello è micidiale, perché è una cosa sui binari dove davvero tu quello perdi devi, facilmente devi fare l'equilibrio legato a una sedia, perché sono cani. Esatto. No, ma anche là, se vi ricordate, c'era comunque sempre un ragazzo di IGN accanto a te che è pronto in teoria a reggerti se sì, cominciavi a piegarti. Quando l'ho provato, in effetti che la cosa già di per sé è inquietante, cioè nel senso stai provando un dispositivo, una periferica, però c'è qualcuno vicino perché comunque. Vabbè, allora calcola che se tu lo provi in piedi è normale che se io me lo compro e poi me lo provo a casa non c'è nessuno, devi stare seduto. No, è una cosa che devi provare seduto, tant'è che infatti quando l'hai provato tu il giorno dopo, io stavo seduto, ti hanno messo la sedia perché raccogliere uno che stava cadendo su uno spigolo il giorno prima è stato sufficiente. No, perché secondo me il fatto che dice questo è grosso, no lasciamo, mettiamolo seduto, non lo prende nessuno, oppure questo non gliela faccio a reggerlo, poi esatto, se mi cade comunque uno che stava lì per cadere su uno spigolo l'hanno ripreso proprio all'ultimo, sì. Perché ci hanno avuto un attimo, no, se la sono fatta addosso, il giorno dopo hanno messo giustamente la sedia. Cioè è successo? Sì. Sì, presente. No, me l'hanno raccontato proprio loro di IGN. No. In effetti, considerando che questo è un marchingegno del demonio che inganna la mente, quindi ti fa pensare di andare in qualche direzione, tipo avanti e indietro, quando in realtà stai fermo e il cervello giustamente quello no, io dice sta sensazione, però compensiamo. Cioè, allora, tu stavi seduto. No, ok. Quella è vero, questo diverso, è vero, quindi sono d'accordo. Però questa sensazione in realtà non ce l'ho avuto, anzi, devo dire che mi ha dato anche meno fastidio l'effetto tridimensionale, sì, cosa che in realtà mi dà fastidio di solito proprio per il problema, cioè per persone che hanno un disallineamento, magari vederli con gli occhiali polarizzati, lo schermo del cinema sta a distanza, ovviamente maggiore la distanza e maggiore diventa il disallineamento e quindi diventa un problema proprio vederlo il 3D. In realtà, ecco, su questo strumento io questo problema non ce l'ho avuto e devo dire che è una cosa che non mi ha dato particolarmente fastidio. Secondo me il vero problema è che comunque è un accrocco che tu c'hai in capoccia, cioè nel senso se vuoi non vuoi, no Giuseppe? Sì, è un accrocco che comunque non pesa, è più ingombrante se noti che effettivamente pesante, è un accrocco che poi pure per metterlo non è neanche tanto facile, perché appunto è anche tenuto mi pare da due strap, uno laterale e uno verticale, un se mi ricordo testa, esatto. E poi appunto come avevo detto prima deve essere abbastanza, cioè ben messo a fuoco, ben tarato, perché altrimenti subentra poi il motion sickness. Oltretutto poi purtroppo non so se ci avete fatto caso, ma c'è comunque anche una distinzione tra quello che effettivamente tu vedi col visore, che è un po' più sfocato, rispetto a quello che effettivamente veniva mostrato in contemporanea al monitor, che è un po' più nitido, anche come distanza è diversa, no? Cioè quello che tu vedi sul monitor ha un raggio un pochettino più grande rispetto a quello che vedi con gli occhi, no? Sì, certo. Attaccati. Sì. Poi oltretutto io l'ho voluto provare apposta per aumentare il mio range di esperimenti con l'Oculus nei vari eventi con le lenti, e devo dire che anche con le lenti con gli occhiali messi non dà fastidio, non ho percepito niente, anzi è quasi naturale, a differenza appunto magari di quegli accrocchi che ti metti al cinema in 3D con sopra gli occhiali, no? Sì, no, infatti, no, questo io non l'ho provato con gli occhiali, però devo dire che sì, si vedeva che c'era lo spazio rispetto magari altri dispositivi del passato che invece era veramente molto più complicato. Mi ricordo poi che ormai sarà l'abitudine, però magari il primo, non so se mi darai ragione visto che è la prima volta che tu lo provavi, Simone, sì. Anche tu Marco, ma all'inizio non vi trovate spiazzato tra quello, o quantomeno non riuscivate a fare in maniera naturale e automatica il pairing tra quello che guardavate muovendo la testa e diciamo lo spostamento effettivo del personaggio, perché questo non viene simulato dalla rotazione della testa, ma bensì da quello che fate col pad in mano. Non vi è capitato? Così esatto, immediato, sì. Però anche, stavo più che altro pensando a non cadere io, cioè, perché c'erano proprio delle cose che non ci ho fatto tanto caso. C'era Marco che mi diceva gira la testa, io dicevo perché devo girare la testa, non ne sento la necessità di girare la testa, poi giravo la testa e quindi vabbè, pure il movimento sì è un po' e vabbè, in realtà a maggior ragione nella demo che ho fatto io, mm-hmm. che c'era poi l'elemento del braccio con la pistola in più, sì. che era da controllare con l'altro grilletto, il grilletto destro, sì. Con l'analogico destro, che quindi ovviamente aggiungeva un elemento in più, era un'informazione che il mio cervello doveva elaborare in più, e lì veramente ho faticato. Cioè, dopo io invece l'ho trovata, non a livello di questo specifico demo, ma sempre nell'arco di un altro gioco che avevo provato invece a Colonia, che era Eve Valkyrie, che è uno spin-off della serie Eve dell'MMO RPG online. Questo qua, diciamo, simula dogfighting. È una delle cose particolari di questo gioco, è che appunto ti muovevi sempre la sua navicella col pad, come in questo caso, solo che per esempio per fare il lock-on dovevi proprio inquadrare muovendoti con la testa, e questo all'inizio io sono proprio entrato in crisi perché non ce la facevo. Sì, sì, vabbè, nel senso che comunque al di là del fatto, sì. che penso che oltre al discorso della taratura, come diceva Giuseppe, mm-hmm. ci vuole comunque anche un periodo, tra virgolette, di addestramento, sì. secondo me, proprio perché comunque è un discorso un po' a parte. Poi aggiungiamoci, poi dopo i ragazzi di igiene ci hanno anche mm-hmm. spiegato, però aggiungiamoci anche il fatto che comunque secondo me stavamo utilizzando un device con, sì, esatto. con un motore che insomma, diciamo, tendenzialmente poteva anche non essere strettamente predisposto per quel tipo di sì. strumento, e abbiamo giocato ovviamente alcuni livelli di Half-Life, mm-hmm. Per esempio Marco diceva, io ho giocato una parte dove lui doveva soltanto esplorare, non doveva fare esatto. cose particolari, invece poi la parte che ho provato io era quella lì con cioè stavi praticamente nelle fogne con mm-hmm. l'elicottero e te sparava, e quindi dovevi non solo evitare ma dovevi anche manovrare sto braccio, e lì veramente per me è stato uh-huh. il panico. E quando io ho fatto questo appunto, poi mi è stato anche spiegato uh-huh. dicendo che c'erano delle demo specifiche sì. originali, ma erano anche più brutte di quelle di Half-Life 2. Uh-huh. Per quanto potessero essere brutte, però questa è una riflessione che faccio io, e poi potrebbe anche essere sbagliata, erano comunque strumenti ideati per dimostrare le potenzialità di quello strumento, e probabilmente avrebbero funzionato anche meglio, penso, sì. no? Sì, sì, sì, sì. Tant'è che appunto, ripeto, quella del roller coaster dell'ottovolante è micidiale, perché effettivamente è in grado di farti provare un certo senso di vertigini, come se fossi davvero nelle giostre, per intenderci. Poi diciamo l'unica cosa che ho detto, secondo me, tirando le somme, almeno dal mio punto di vista, è una tecnologia interessante che sicuramente si spingerà nel futuro, perché ricordiamo anche la stessa Sony ne sta sviluppando una sì, versione vero. Privata appunto, che sarà supportata nel futuro da PS4. Però diciamo gli unici miei dubbi sono appunto il discorso che allo stato attuale è troppo acerba per avere un uso proprio da gaming puro, perché appunto tra le demo che finora io almeno ho fatto sono sempre comunque sotto i 10 minuti proprio per prevenire appunto queste nausee, questi disturbi, il sorgere di queste cose, e quindi ovviamente diciamo non si prestano appunto a sessioni di gioco anche minime, per come le intendiamo noi, e soprattutto anche l'effettivo tipologie di applicazioni nell'ambito appunto del gaming, perché ci sono sì certe l'Oculus Rift è perfetto per tutti quei giochi tutto ciò che è in soggettivo, che fanno esatto dell'immersione la caratteristica chiave, quindi andrà poi domani benissimo per giochi come Bioshock Infinite, Gone Home oppure Titanfall, però per tutti quegli altri giochi invece dove la terza persona in qualche maniera ti veicola altre emozioni, informazioni come Giurne, non è specifico, come Mass Effect, che non so se era stato precedentemente nominato in questa puntata, appunto esula dal suo utilizzo fondamentalmente, a meno che Mass Effect 4 non sia un first person shooter, che non sì sia... e soprattutto le scene di sesso con l'Oculus Rift effettivamente saranno più interessanti. Ma questo è un problema che risale, cioè che risulta importante anche per quanto riguarda ovviamente i Google Glass, perché quando tutti ai primi tempi sapevano si può anche registrare, ho detto qui i POV si scateneranno, infatti nei test o tutti coloro che hanno avuto i prototipi non hanno, c'era proprio il divieto specifico e invece poi su YouTube già si trovano i primi trailer. Solo che comunque, scusami Simone, con le Google Class in realtà comunque tu hai, diciamo, sei meno coinventato, meno isolato dalla realtà rispetto all'Oculus Rift. Cioè tu immagini appunto con l'Oculus Rift, tu che sei da solo a casa, con questo qua mettici pure le cuffie, se appunto per aumentare l'immersione e tutto, e praticamente non hai idea di chi o cosa ti stia attorno, esatto, in quel momento, potresti essere ucciso a non saperlo. Se scoppia un'emergenza, se ti entrano i ladri in casa, come appunto ho scritto, fa critica. Giuseppe l'ha scritto sull'articolo, mm-hmm, che in effetti è una cosa che poi nel forum i lettori comunque l'hanno notata, perché magari è una cosa, mm-hmm, che lì per lì uno non ci pensa, in realtà, mm-hmm, provando questi strumenti hai proprio la sensazione di separazione, no? Ma è, esatto, chiaro, è ovvio, come, mm-hmm, come quando c'hai le cuffie o roba del genere, cioè, esatto, comunque c'è già una barriera tra te, mm-hmm, e il tuo rapporto sensoriale, mm-hmm, con quello che sta intorno, mm-hmm, a te. In quel caso è proprio definitivo, no? Nel, sì, senso è praticamente drastico. E poi tra l'altro, mm-hmm, c'era, come si chiama il ragazzo di Phil Blank? Stefano Tallarico. No, Bruno Barbera, che lo ha provato in maniera, mm-hmm, massiva, proprio, dice che, mm-hmm, hanno fatto quasi tra pause e, mm-hmm, e ricominciare, insomma hanno fatto, mm-hmm, tipo un'oretta di prove, dice che hanno comunque anche sperimentato dei furti e degli incendi per vedere. No, dice che comunque poi dopo alla fine comunque il fastidio comincia a provare, no? Cioè, si, mm-hmm, comincia a provare, anche perché poi dopo, per quanto non sia pesante, è sempre una cosa che insomma alla fine in qualche maniera ti fa sbilancia un po' la testa, esatto, sì, un po' ti sbilancia la testa, quindi insomma poi dopo alla fine sono strumenti interessanti sicuramente, ma ancora per quanto sia molto difficile, di rapisti, mm-hmm, alla lunga ci avrebbero molti, mm-hmm, clienti, sì, esatto. Beh, ma questo pure col mouse è stato così, però con questo ancora di più, diciamo, che la cervicale t'ammazza, per quanto più universale rispetto a esperimenti del passato, insomma ricordiamo ormai sono 15 anni che si provano esperimenti sulla virtual reality con i vari caschi, caschetti e altri dispositivi di tipo sensoriale. Poi oggi riflettevo proprio sul forum di All Games Italia, proprio in merito all'articolo che ha scritto Giuseppe, mm-hmm, secondo me l'immersività totale non estraniante sarà il ponte ologrammi dell'Enterprise. Ma quindi più next generation, meno tagliaerbe. Sì, ma vabbè, ancora voglia, insomma, quindi un giudizio finale, Giuseppe. Mm-hmm. Ti ho detto una cosa interessante, è decisamente un passo avanti, quindi di spartiacque tra come giochiamo per ora e come giocheremo, però è troppo acerba allo stato attuale, appunto. Sì, sì. Ci vogliono ancora molti miglioramenti, quindi prima di un paio d'anni dubito che potrebbe diventare prendere piede proprio a livello anche commerciale. Sì, anche se standard secondo di me massa, di massa esatto. Standard, diciamo, però di massa come vedi ormai commercializzato il Kinect o la Balance Board, per intenderci. Certo. Vabbè, Marco, tu invece vuoi dire un'ultima cosa, poi passiamo a Bayonetta 2 a sto punto. L'Oculus Rift secondo me è comunque una cosa che nel futuro sicuramente verrà utilizzata, però ecco, non, per quanto riguarda il VPOV nel senso di giochi, uh-huh, sicuramente ci avrà un suo quid in più, però sui giochi in terza persona, oddio, potrebbero studiare dei giochi che comunque funzionino, sì, non in terza persona, ma che diano la possibilità di essere giocati con l'Oculus Rift, cioè comunque vedere lo schermo in 3D. Quindi sì, però non è la stessa cosa, perché non è l'occhiale 3D, ok? Quindi la simulazione del 3D, cioè questo è proprio un'esperienza avvolgente, cioè sì, sì, quasi a 180 gradi. Però quindi si può far girare anche un sì, però non so quanto, non è la stessa cosa, non so quanto possa essere funzionale, cioè, non so quanto può servire, quello sì, un'altra cosa. Comunque potrebbe, o come potrebbero nascere delle nuove forme di videogiochi in terza persona, nuove forme di vita anche, che sono magari dei giochi in terza persona che però in alcuni ambiti, quando ci sono gli sparatutti, passano in prima persona, e capito, una specie di ibridi che possono essere giocati in talune circostanze in prima persona, e quindi lì rivalutare i dispositivi di 3D virtuale. Sì, però Marco, in questo caso speriamo solo che ci fanno selezionare il sesso dell'avatar, perché poi quando passi in terza persona, se mi, vedere, se mi vedete un sedere, almeno che sia un bel sedere. No, no? Perché tu, ma tutti quanti prenderanno un personaggio donna scollato e basteranno lo sguardo. Esatto. Questo sarà, e moriranno, bello, e moriranno tutti. Sparano. E vabbè, faccio soltanto una piccola notazione. Siamo oggi è stata aperta anche in maniera brutale. Da elaborare completamente la pagina, appunto, dell'occhio del Beholder, che è ovviamente questo podcast che Giuseppe sarà ovviamente l'autore e anche il conduttore. Ha fortissimamente voluto e ti ha in tutte maniere ha cercato di convincerti a farlo. Esatto, e abbiamo aperto la pagina, ancora non ci sono molte informazioni dentro, proprio perché è così che se ogni giorno diamo sempre una briciola in più, che insomma è la cosa che ci piace fare. E 42 persone già hanno fatto like nel primo giorno, che insomma è una bella soddisfazione. E c'è già un messaggio privato di Justin Rosati che ha scritto fico, che insomma ci fa piacere. Poi c'è gente veramente, mi ha scritto, è un massaggio massonico, quindi però c'è stato anche un altro utente, insomma, che ringraziamo, Giuseppe, giustamente, che è Michele Ricci, che si è proprio interessato e ha condiviso. Si è prodigato anche a diffonderlo pure in altre pagine, sempre su Facebook e in altri lidi, quindi esatto. Lo ringrazio davvero di cuore. Comunque, come ultima cosa, sempre relativa al nuovo podcast, sin da ora faccio anche appello a tutti affinché magari, anche se non sapete effettivamente la struttura del podcast, però se tanto volete mandateci comunque un commento, qualche domanda eccetera, così almeno la sezione, che sicuramente onnipresente in qualsiasi podcast, della posta sarà sin dal primo episodio ricca, certo. Anziché skippare come classico nei primi episodi, no? Ah, cioè giusto, Rosati tra l'altro ha anche commentato ha fatto mi piace e condiviso ovviamente anche lui questa specie di banner virale che ovviamente porta la data 19/11/13, che è chiaramente la data di prima pubblicazione del primo episodio, e la didascalia di questo banner è le regole del gioco, è una cosa che ovviamente poi tutto quanto poi si spiegherà. Vabbè, comunque per ora dicevamo, al di là di questo mi faceva piacere dirlo, perché chiaramente insomma il fatto di vedere l'entusiasmo in un nuovo progetto è sempre una cosa piacevole, che ti sprona ovviamente a migliorare anche con una certa velocità, perché insomma rispetto a quello che abbiamo pensato un paio di mesi fa, comunque qualcosa cioè le cose sono un po' cambiate, se ti ricordi. Sì, assolutamente, infatti. Va bene. Bayonetta 2. Ok, allora Bayonetta 2, appunto, il secondo giorno è la demo che abbiamo provato, che sono uscita fortunatamente nonostante Simone cercava a un certo punto di staccarmi fisicamente dalla postazione. Sono riuscito a portare a termine in toto ed era purtroppo, ripeto, la demo dell'E3, però appunto all'E3 non avevo avuto modo di giocarla tutta, infatti è stato uno dei motivi che mi hanno appunto spronato a non staccarmi finché non avessi affrontato pure il boss finale. E, per chi ovviamente non se lo ricorda, Bayonetta 2 è il seguito di un gioco sviluppato da Platinum Games nel 2009 per Xbox 360 e PS3, ora esclusiva Wii U il seguito. Si tratta di un hack and slash stylish sulla falsa riga fondamentalmente di Devil May Cry, per intenderci, dove tu controlli questa avvenente strega umbra, che fondamentalmente sarebbe nuda se non fosse che tutto il suo corpo è rivestito dai capelli. Cioè umbra, esatto, e con gli stessi capelli fondamentalmente lei produce armi, o comunque li usa come per picchiare i nemici. Ma dicevi? No, ma mica è pelosa, sono capelli, esatto. Ma Ma scusa, anzi, ma è Umbra, anzi, Umbra nel senso che viene dall'Umbria? No, no, allora, secondo la mitologia di Bayonetta, senza volere fare spoiler eccetera, c'è questo, sin dal primo gioco c'è questo questa diatriba tra le streghe dell'Umbra, che sono i detentori appunto del potere dell'oscurità, e i saggi di Lumen, che sono quelli della luce. E Bayonetta è una delle poche streghe dell'Umbra rimaste in vita ai giorni nostri. Ok, vabbè, sì. Infatti questi poteri anche dei capelli appunto le derivano da questa sua natura dell'oscurità. Sì, esatto, una bella, molto meglio soprattutto della tizia, della standista che c'era là in cosplay, ricordiamolo. Il gioco si poteva avviare, giocare la demo in due tipi, con due tipologie: o con il controller, cioè il controller standard, che comunque era sempre attaccato col gamepad, però potevamo decidere o di usare i comandi standard, oppure per i giocatori meno esperti, che opzione che ho subito disattivato, la possibilità anche di far partire combo attraverso la pressione del touchpad. Questo ovviamente è per avvicinare più un certo tipo di pubblico casual. Siccome sono hardcore, ho preferito giocare come lo ricordavo anche dal primo capitolo. Infatti, fondamentalmente, a livello di gameplay non è cambiato molto da Bayonetta 1. C'è sempre il Witch Time, che fondamentalmente è questa caratteristica che quando tu schivi il tempo rallenta, alla Bullet Time di, per intenderci, di Max Payne, tanto per ricordare un altro famoso video di dietrologia videoludica. Solo che qua ovviamente tu rallenti il tempo, e quindi se hai più facilmente la possibilità di inanellare combo per fare più male possibile ai nemici. Oltretutto, riempita anche una certa barra, hai la possibilità anche di scatenarti con fantasiose nonché ai limiti dell'erotismo e del sadomaso combo e fatality, dove praticamente cerchi di fare male e al contempo umiliare i nemici. C'è tipo una dove praticamente lei, non so se ti ricordi, tipo la sculacciava davanti a sculacciava il nemico davanti a un'enorme ruota della morte, non so se sì, ti ricordi, mentre giocavo. Poi ovviamente questa demo appunto era un livello ambientato in un contesto urbano, dove praticamente la protagonista Bayonetta saltava da un getto all'altro e picchiava prima queste orde di tipo centauri divini, e poi si intervallavano anche con degli enormi demoni incavolati. Poi la cosa particolare è che a un certo punto della demo c'era anche la possibilità di sfruttare l'aiuto di un compagno guidato dalla CPU, che era un'altra tizia che compariva pure nel primo gioco, Jen, dove potevi anche incominciare a fare gli attacchi, diciamo, gli attacchi speciali in sincronia. Sono previste scene in Lesbo? Me lo auguro. Comunque è un gioco molto ammiccante, quindi suppongo che appunto se la direzione artistica è uguale a quella del primo, e lo è, perché comunque dietro ci sono sempre i soliti tizi di Platinum, e fondamentalmente si rivela vincente. Anzi, speriamo che sia finalmente il titolo, anche se questa cosa la stiamo dicendo da due o tre titoli fa, come appunto è stato anche per Wonderful 101 e altri, che insomma che riesca a risollevare le sorti di Wii U. Tecnicamente comunque era ineccepibile, anzi è tra i giochi che per Wii U vantano, diciamo, la migliore grafica, e soprattutto se notavate era molto fluido, non si schiodava mai dai 60 fps. Veramente è un lavoro ovviamente fatto... C'è da dire il discorso che appunto questa è sempre una demo, quindi non sappiamo poi se il prodotto finale avrà la stessa bontà. Le demo sono peggiorative rispetto, sì, oddio, non è manco anche detto. Se comunque Platinum è sempre stato sinonimo comunque di stabilità, di cioè non hanno quasi mai sbagliato, è stata la stessa cosa fondamentalmente con un cavolo di lavoro. Poi cioè io conosco poco la Wii U e le sue potenzialità, ma insomma sì. È veramente, veramente impressionante. Io a questo punto ho due domande. Sì. Una va bene, abbiamo già parlato su Facebook insieme al nostro amico Antonino Nicita, che ovviamente aveva già posto probabilmente la domanda. Quanto è tecnico dal punto di vista del gameplay il gioco, e l'altro è come mai secondo te alla fine è stata la Nintendo ad accaparrarsi questa esclusiva, che è un'esclusiva pure abbastanza importante, e magari non Sony con una console per esempio in uscita next gen. Allora, innanzitutto è come appunto ho detto prima, è tecnico esattamente quanto lo era il primo Bayonetta, ovviamente premessa appunto che ho giocato solo una porzione di questo livello, perché appunto c'è la possibilità comunque di fare di inanellare particolari combo, fare anche juggling aereo per continuare praticamente a scagliare i nemici in aria e continuare a ammazzarli in aria, alternare pure i colpi appunto con il gli attacchi con i capelli a quelli per esempio con la pistola, un po' come fa anche appunto Dante di Devil May Cry. Quindi è un gioco, diciamo, dal punto di vista del picchiaduro tecnicissimo. Per quanto riguarda invece il discorso dell'esclusiva, è fondamentalmente perché Bayonetta 1 non ha venduto così tanto come è successo, quindi nessuno ci credeva ed era disposta a finanziare fondamentalmente un sequel a fare da publisher. Quindi mi verrebbe la battuta, è stata l'ennesima scommessa un po' a culo di Nintendo. Esatto. Okay, nata dalla disperazione. Mm-hmm. Sì. Speriamo che appunto almeno questa volta la scommessa sarà vinta, no? Gli sforzi di Platinum e di Reiki Kamiya vengano ripagati a pieno. Sì, sì, chi mi conosce sa che non sono un nintendaro né un particolare simpatizzante, ma è chiaro che voglio dire, per una casa come questa che ha fatto e fa parte in maniera importante della storia del videogioco, chiaramente noi non possiamo sempre che augurargli il bene, il male non si augura a nessuno, esatto, compresa Capcom, quindi cioè, nel senso, diciamo che poi magari ne parleremo in un'altra occasione, visto e considerato che come sappiamo la Capcom sta passando un periodo un po' particolare. Se alziamo una colletta viene via con poco, insomma. Forse potrebbe essere la nostra occasione di entrare, acquista Capcom, esatto, e entriamo nel mondo dell'industria videoludica. Non so poi dopo con che soldi finanziare un videogioco, però sai, si può iniziare sempre dal freemium. Ma cioè che in Italia ci potrebbe essere imparati al a fare videogiochi con poco, con molta gioventù. Va bene, quindi diciamo così che è molta ribellione. No, attenzione a quello che diciamo, perché poi dopo sapete che a me mi si creano delle cose sulla pelle, quindi le irritazioni cutanee. Allora Giuseppe, vabbè, quindi questo insomma fondamentalmente sì, penso insomma pure su Bayonetta. Tu Marco c'hai qualche domanda? Ma si spoglia tutta nuda? No, non si spoglia. È una cosa che desideravano tutti i fan sin dal primo, purtroppo ovviamente questo lo sai, non è stato PC possibile prima, e dubito che sarà nel secondo, perché ricordiamoci appunto che essendo il publisher Nintendo fa giochi per famiglie, perché comunque, non è uscito su PC, anche se è uscito su PC anche se è un titolo abbastanza hardcore che comunque tenderà a riportare un certo, perché comunque ho visto che Bayonetta, per quanto poco possa aver venduto, aveva comunque una sua schiera di fan che protestano, oppure protestano il fatto che comunque è un'esclusiva a Nintendo, oppure sono costretti a comprarsi una Wii U, insomma, per giocare al secondo capitolo. Ricordiamoci che la schiera di fan ce l'ha anche Deadly Premonition, insomma. Sarebbe da parlarne, perché sarebbe da fare un nuovo video proprio insieme a Giuseppe per quello che è successo con questa versione PC di Deadly Premonition. Che pare, comunque l'acqua c'è, le texture è la texture blu, ma no, adesso che riflette quello che c'è, sta solo con qualche scintillio, quindi attenzione, però sono pezzenti, vabbè, comunque dai, ne parliamo in un'altra. Il filmato iniziale era un filmato e c'era la texture assente, invece durante il gioco quello è insomma, vabbè, quindi Bayonetta e l'Oculus Rift l'abbiamo detto, poi Giuseppe insomma in giro per la fiera, insomma fondamentalmente come abbiamo detto magari anche e questo l'abbiamo detto anche con Bertoni all'inizio nella prima parte, diciamo una fiera più piccola dal punto di vista della quadratura, ma più grande dal punto di vista dell'affluenza del pubblico, perché a quanto pare poi sabato e domenica insomma c'è stato un po' il botto di accessi, anche se noi qualcuno ha detto, dice, c'è a questa Games Week hanno dato gli accrediti di stampa a Porcecani, mi sono girato, ho fatto però in realtà, cioè, noi il nostro lavoro lì l'abbiamo fatto bene, e quello ci ha sorpreso, e non so se l'hai visto anche tu Giuseppe, ma penso di sì, bambini da 12 anni c'erano gli accrediti di stampa, insomma, e lì sì. A quel punto ti dico, ok, c'è qualcosa che non funziona a livello organizzativo, perché comunque un minimo di filtro lo devi per fare. Essere, diciamo, sincero al 100%, non mi ha sorpreso tantissimo, perché purtroppo una cosa del genere l'avevo già riscontrata anche a Colonia, diciamo, magari forse in quantità minore, però ovviamente chi erano quei bambini con gli accrediti di stampa erano fondamentalmente figli di espositori e altre, diciamo, gente ovviamente che lavorava là per la fiera, che si era portata appresso tutta la prova della famigliola. Certo. Va bene, detto questo, beh, Marco, tu invece? Ah, noi invece siamo andati, se ti ricordi bene, sì, allo stand della PlayStation 4. Sì, no? Siamo che stati bello, anche minacciati. Allora, innanzitutto sempre grazie a Giuseppe, perché Giuseppe ci ha dato il passafila, il suo super pass, perché Giuseppe ha detto basta PlayStation, ma fa venire a nausea più dell'Oculus Rift, quindi ci ha dato questo super pass. Ci tenevo che soprattutto lo poteste provare voi, perché comunque, anche perché sapevo già quali erano i titoli esposti, quei pochi titoli, alcuni dei quali neanche appunto arriveranno al lancio, e che avevo già comunque provato, quindi mi sembrava inutile. Siamo andati, ho fatto un gesto umanitario, fondamentalmente. Che gentile. No, ma infatti, cioè, almeno abbiamo avuto una parte attiva anche noi, se no andavamo Esatto. Siamo entrati, abbiamo mostrato il nostro foglietto che ci dava permesso di entrare. Ah, lui vuoi passare? Guarda, passo anche io. Possiamo fare un filmattino qui? No, la telecamera no. Ma un filmattino, dai, un filmattino possiamo fare. Vabbè, la telecamera no, la metto facciamo, giù. No, facciamo così. Basta che non riprendete Assassin's Creed. Però basta che non riprendete Assassin's Creed. No, lui mi ha detto proprio, c'avevo quello sempre dietro le calcagne. Tutto quello dietro le calcagne è venuto dopo. Lo so, ma quello all'ingresso ti ha detto che potevi riprendere, perché non riprendevi Assassin's Creed. Allora non l'avevo capito, se l'avevo capito meglio era meglio. Insomma, vabbè, infatti ti dicevo riprendi, no, c'è l'omino dietro. Stava dietro, stava a guardare, perché quello ce l'ha proprio con me poi, non è che, quindi, vabbè, comunque dai. E quindi ho provato questo gioco di macchine di cui non ricordo il nome. Drive Club. Meno male che c'è Giuseppe, comunque sei proprio veramente un reporter di merda, possiamo dirlo. Beh, che mi frega, certo, io sono di quelli che si è imbucato. Praticamente abbiamo visto, insomma, questo bellissimo gioco di cui ancora continuo a non ricordare il nome. Drive Club, ecco, ma tanto c'è un gioco talmente che... No, era carino invece. Era carino, ma sembrava uguale a tanti altri. Quella cromatura della macchina, Sunshaft. La macchina, sì, insomma, carina. Però c'avevi gli alberi che c'avevano 3 pixel in croce. No, vabbè, ma non esagerare. Probabilmente non era il titolo proprio che dicevo, ammazza che roba. Guarda. Tecnicamente non è comunque paragonabile al Forza Motorsport 5 di cui ha parlato Cesare. Un pelino inferiore. E anche secondo me il motivo per cui se ne sono accorti abbastanza tardi, hanno infatti rinviato l'uscita all'anno nuovo. Beh, ma che è sta roba? Ma Starberry? Ma io lo metto a posto, porco Giuda. Quattro mesi, via. Ma che abbiamo fatto noi sta zozzeria? Ma comunque come frame rate, come ti è sembrato? Abbastanza stabile? Sì, stabilissimo, se non che tanto in tanto si bloccava proprio l'immagine e andava avanti. Cioè proprio dei blocchi di tipo mezzo secondo, fenomenali. Se non mi ricordo. Sì, però, sì, dai, che troppo pure detto. Si è bloccato l'immagine. Beh, La fisica invece hai provato a sbattere? La fisica, macchina mi sembrava... Si sbatteva sempre in realtà. Sì. No, ma lo faceva apposta, Sì, per provarlo. Le macchine non mi sembra che si rompessero, quindi proprio siamo sull'indistruttibilità andante. Poi era praticamente corsa con Ghost Car, quindi non c'erano altri. In realtà il feedback così, a guardarlo un po' dall'esterno, anche era più verso un Need for Speed che verso un Forza Motorsport. Sì, ma quello era più un giro di prova a tempo con sfidanti umani che avevano fatto il record, tu dovevi cercare di batterlo. Però in realtà era molto macchinoso, cioè girare la macchina probabilmente dovevi usare di più i freni, non lo so, comunque era molto poco responsive. Marco, il feedback per la prima volta col pad della PS4 come ti è sembrato? A parte il tasto select e start non so dove erano, per il resto è uguale, cioè non ci ho fatto niente. Perché non ci sono, sono cambiati ora. Tutto non è uguale. Per me è uguale. No, non è uguale, dai, è più piccola, cioè tutto molto più a portata di mano. E... In realtà è un po' più allungato, se noti. Tant'è che infatti se provavi a mettere gli incavi dei due analogici, che oltretutto, se noti, sono bombati, anzi no, scusa, sono incavati rispetto a quelli della PS3, che sono bombati proprio per avere un migliore grip anche dei pollici sopra gli analogici. E poi finalmente, non so se hai notato, anche i grilletti sono come quelli del pad della 360, molto più allungati, con le non corna, ci ho fatto per intenderci. Tanto caso. Ma lui, secondo me, il joypad della 360 se lo ricorda poco. Mm-hmm. Perché c'è durata poco la 360. No, sì. In realtà io c'ho un pad casalingo, mm-hmm, simil copia per PC da Xbox, mm-hmm, 360. Quindi c'ha comunque, mm-hmm, però non ci ho fatto poco caso. Mm-hmm. Cioè, il joypad per comunque me è stiloso. Il joypad è stiloso proprio. Mm-hmm. Mi piace. A me piace. A me fa un cazzo. Francamente, quindi non l'ho guardato. Per me è un mezzo. Come dicevamo, guarda che bel mouse. Vabbè, però è un mezzo. È stato un mezzo comodo, oppure insomma. Ma io non l'ho trovato proprio comodo come quegli altri, quelli vecchi, cioè non c'è tanta differenza, cioè sono ergonomici qua, cioè la forma è quella, ma che sia un centimetro più vicino, un centimetro più lontano, i tassi delle distanze sono quelle più o meno, quindi. E i giochi come appunto Forza, Drive Club, quel eccetera, gioco che, come si chiama, hai trovato anche, avevo anche funzioni di Rumble, oppure, cioè, quindi Force Feedback l'hai sì, avuto? Sì, c'era, però insomma, cioè secondo me quel gioco non andava messo. Questo fondamentalmente ma quello ci sta. Ecco, scusate, ecco una cosa che purtroppo mi è venuta in mente solo adesso, ma l'avrei voluto anche tirarla fuori quando parlavo di Bayonetta che anche dei giochi di Cesare. Un'altra cosa che a differenza di Colonia, che a me questo ha dato proprio fastidio, è il fatto che tra la musica sparata, tunes eccetera, tu non potevi sentire completamente assaggiare l'audio del gioco, di nessun gioco. Questo per esempio a Colonia molti ovviavano col fatto che ogni postazione c'aveva le sue cuffie. Qua non si è vista neanche mezza cuffia da nessuna parte, proprio ci avete fatto caso. Sì, non si sono proprio posto il problema. E infatti questo è stato, cioè, soprattutto con Bayonetta. Perché Bayonetta era praticamente, come tu sai bene, era vicino a, cioè secondo, nel senso era nel, aspetta fammi finire, ma proprio su questa cosa era nel reparto del Nintendo dove proprio in quel momento in cui Giuseppe stava facendo la prova di Bayonetta stava iniziando il concerto di Super Mario che cantava e tirava doni e dove tiravano gadget, esatto, dove tiravano doni in faccia alla gente colpendoli apposta con cattiveria. Non ci ho fatto caso perché ho dato per scontato che non ci fosse audio, però magari non so, ma c'erano le casse? No, le casse no, proprio per questo infatti loro dovrebbero mettere l'audio del televisore, probabilmente. Come è stato, come è stata la televisione, cioè perché io non ci ho fatto neanche caso. Televisori Sony. Ah, è vero, c'è ragione, televisori Sony. No, ma io lo sentivo l'audio, però non era apprezzabile, nel senso che non potevi valutarlo, cioè in mezzo alla caciara che c'era attorno. Chiaramente, sì. E poi abbiamo provato un altro gran capolavoro, che veramente questo è uno di quei giochi che sicuramente farà capire quanto è potente la PlayStation, cioè Knack. Infatti K di Knack come killer app della PS4, esatto, no? Come killer e basta proprio. Quindi, cosa bellissima. È un po' strana sta cosa che se ne escono con un gioco del genere, sebbene probabilmente da quello che ho letto in giro potrebbe anche essere un'esperienza carina e anche particolare, però, perché c'è tutta una sua storia. Però se vuoi far vedere i muscoli non puoi metterci un gracilino. Anche perché comunque anche non per cosa. Per quanto è figa la cosa della fisica particellare, no? Di questo personaggio che via che spacchi con oggetti i vari residui se li assorbe. No, ma sta cosa comunque è una grossa paraculata, perché insomma la cosa particellare non è che. Cioè, secondo me loro Sony in questo caso a livello produttivo, anche per quanto riguarda le terze parti, ha sbagliato in maniera drammatica il tempismo, perché tu non puoi uscire a 5 mesi e 3 mesi dall'uscita della nuova console con i due titoli più potenti per la console precedente, cioè nel senso tu te ne esci con The Last of Us, potenti io parlo tecnicamente, The Last of Us e Beyond, che comunque vuoi quello che ti pare, però cioè è tecnicamente probabilmente una delle cose più sopraffine che abbiano fatto con la console, quando c'hai una nuova console in uscita e non c'ha tecnicamente nulla che possa essere paragonabile a quello che sta per far uscire Microsoft. L'esclusivo non c'è, cioè, perlomeno no, ma non è solo esclusivo, no, è proprio non ci sono titoli all'altezza, capito? Cioè, sono titoli quelli che ci stanno su multipiattaforme, esatto. Poi alla fine, perché poi io e Marco stavamo lì, abbiamo visto che c'estava Assassin's Creed e ci siamo, doveva essere probabilmente quello nuovo, probabilmente, sì, perché siamo guardati, da quello ci siamo che abbiamo detto visto, bello graficamente, ma secondo chiaramente te i costumi so quelli di Black Flag o so quelli di quello precedente? C'erano le mignotte, quindi proprio per usare le zoccolette per far distrarre le guardie, l'originalissimo. Quindi, cioè, sarà quello nuovo o sarà quello vecchio? No, ma è la stessa cosa. È un enorme gioco che si perpetua. Allora, nel diciamo tempo. Che graficamente si vedeva proprio che comunque c'era una fluidità nei movimenti nell'ambiente, sì, anche una definizione, cioè, assolutamente comunque superiore. Ma anche la distanza. Cioè, stai parlando ovviamente di Assassin's Creed, sì. Ora sei passato, sì, Black Flag, giusto? Sì, sì. Ma anche la distanza, non so se hai visto via ti muovi l'orizzonte, allora, che è molto lontano, questo molte texture stava provando subito. Perché noi non abbiamo provato, c'era un uomo che ci si era fissato sopra, ci sbavava e stava dentro un paesello, dentro un villaggio, e quindi stava in giro a rubare a gente, a soldazzocco, queste cose qui, quindi non c'era tanta profondità di campo, sì, non abbiamo, perché era sì molto, molto stretto anche il tipo di visuale che lui diciamo, cioè, che l'ideale sarebbe stato giocarlo nelle sezioni anche quelle navali, che Bosco, ormai navale, quale, sì, sono anche il ma punto di forza di Black Flag. Diciamo come si dice, sbloccare, perché probabilmente era soltanto un pezzo lì e basta. Sì. Vabbè, comunque, cioè, nel senso, già anche soltanto quel pezzo, l'idea che visivamente comunque era rispetto alla generazione precedente qualcosa di, però ribadiamo, è sempre un non gioco cross generazionale, quindi sai, sono quelle cose che è come è la stessa cosa un po' che riguarda Watch Dogs, che poi tra l'altro, diciamo una cosa, pure lì abbiamo visto grandi file per poi entrare e vedere uno che giocava al posto tuo, esatto. Quindi questa è stata una cosa ancora... uno che giocava al posto tuo è un altro che ti commentava quello che giocava al posto tuo. Sì, cioè, comunque uno che commentava, esatto. Cioè, diciamo che questi giochi che nella next gen dimostreranno tantissimo delle potenzialità grafica, ma comunque sono progettati per tenere in considerazione anche il fatto che devono essere comunque downgradati per la generazione precedente. Quindi in realtà, ma questo poi lo sappiamo bene, dovremo aspettare sicuramente probabilmente un anno, due anni prima di cominciare a vedere cose. Fino al 2014, cose veramente cazzute, belle cose. Però detto questo, comunque, nonostante che Sony fino adesso se l'è giocata bene, diciamo che purtroppo poi se la sta giocando male. Quando si sta arriva... perdendo un pochettino, esatto, qua al traguardo, ecco. Più che più al traguardo, motivo, proprio adesso che sono arrivati a, ecco, questo ai cancelli di partenza, Giappone, no? Nel senso... questo è il motivo magari per cui in Giappone esce a febbraio, tipo, o più tardi addirittura, perché probabilmente da febbraio marzo cominceranno a uscire titoli decenti per più che altro 4. Titoli per, che hanno appeal per il mercato orientale. No, ma secondo me comunque loro anche a livello industriale, sai, di spionaggio, queste cose qua, avevano probabilmente percepito che Xbox era virtualmente pronta. Quanto saremo pronti? Esatto, giugno 2014. E probabilmente no, non può essere. Loro uscivo hanno, prima. Hanno anche un po' anticipato, diciamo così, l'uscita della PlayStation, anche se non avevano poi realmente i prodotti all'altezza. Sai cosa è successo col signor Sony? Che cosa abbiamo disponibili? Abbiamo Knack, abbiamo quel gioco di macchine che non ricordiamo il nome. Questo è russo, però è diventato questo russo. Questo perché c'è spia russa. Certo. Non ricordiamo nome. E poi abbiamo quell'altro gioco che è Assassino Kerido. Che non è esclusiva, però. Poruco del 2. Fammelo sci. Poruco del 2. Eh sì, esatto. E sì. Così è stata probabilmente è stata una cosa del genere. E anche gioco di cane con i soldati, no? Con lo gioco di cane con i soldati, no, però quello non è esclusiva. Cioè, capito? No, anche per next gen. Certo, però non è esclusiva. No, è sempre multipiatta, sì. Vabbè, detto questo, insomma, PlayStation 4, diciamo che anche come stand non è che si è presentata poi al meglio, perché in realtà poi alla fine c'era sto stendino così, insomma, messo tutto aperto, quello guardate tutti. Sì, ma quello di Microsoft invece era un po' più curato, era anche un po' più stiloso, proprio come più fighe soprattutto. Tutto Microsoft, ricordiamolo, era l'unico che aveva pure al suo interno la business area, diciamo, per gli espositori, appunto, dello staff di Microsoft, mentre invece tutti gli altri stand del padiglione non avevano praticamente niente, erano tutti lasciati aperti alla mercé dei visitatori, no? Bene. Allora, volete aggiungere qualcosa? Perché io direi che a questo punto, insomma, se non abbiamo altre annotazioni o curiosità da dire, insomma, direi di andare verso la conclusione di questo speciale che abbiamo cercato, insomma, abbiamo voluto comunque regalarvi, pur restando, insomma, nei tempi insomma accettabili, tenendo sempre in considerazione che sul gamesitalia.net e sui vari canali anche video di archeologia videoludica, di etnologia videoludica, poi faremo man mano uscire, come già sta succedendo, vari elementi, varie curiosità, video o anche un piccolo servizietto che stiamo cercando di allestire, che è il racconto che è il racconto del nostro viaggio da Roma a Milano e ritorno, con tanto di Giuseppe. Adesso ci siamo scordati l'altra volta in diretta, nella puntata live che abbiamo fatto di Halloween, con tanto di grande scoperta, e facciamo pubblicità a sbaffo di un ristorante all'americana, il fantastico Ham, Holy Ham, quel di Milano, esatto. Holy Ham che abbiamo scoperto, c'è anche a Roma, e quindi presto, esatto, insomma, ci siamo andati sia a cena che saremo felici di darvi pure il nostro parere sulla filiale romana, no? Perché quella di Milano c'è abbastanza piaciuta. Allora, Marco, vuoi aggiungere o concludere con qualcosa? Beh, seguite i nostri video sul nostro canale. No, io dico sul vabbè, comunque saluta, sì. No, se dobbiamo cosa che purtroppo siamo rimasti chiusi dentro l'ascensore, scale mobile salivano soltanto. Insomma, un po' di problemi ce l'abbiamo avuti loro, noi eravamo dei conseguenze, ce l'abbiamo avuti noi, perché se poi sono di noi sono cascati, insomma, queste cose. Però a parte quello, tutto sommato un bel posto, un bello rettangolare, alto, mezzo vuoto, perché poi metà dello spazio era vuoto. Però beh, speriamo che l'anno prossimo faccino qualche cosa di meglio, così, giusto per far vedere che pure a Milano, pure in Italia, qualcuno queste cose le sta organizzando. Certo. Chissà, magari può essere anche che ci abbiamo pure il nostro stand di PN. Può darsi che quello con poco viene via. Stavamo riflettendo anche su questo, insomma. Giuseppe. Allora, io volevo anche poi ringraziare tutti i miei, chissà perché ancora, si ricordano ancora di me, fan del tubo, anche quelli di DVL, di archeologia videoludica, non ci hanno chiesto soldi, ma ci hanno chiesto di fare foto. No? Sì, noi non abbiamo richiesto neanche noi soldi, per cui tutto sommato è stata una cosa paritaria. Sarebbe uguale la questione. Allora, ricordiamo e salutiamo tutte le persone che veramente ci hanno fermato, ci hanno chiesto di fare le fotografie, anche solo per salutarci, e quelli, cioè, ovviamente... proprio di fare le fotografie ad altri, no? A noi, vero Simone? Cioè, di fare la foto a quella cosa la lì, foto no? Con quella, no, veramente sì. è stata una cosa che a me mi ha sorpreso anche da una parte, sì, mi ha fatto anche molto piacere, perché comunque vuol dire che quello che facciamo e quello che ha fatto poi Giuseppe in particolare col suo canale YouTube comunque non è stata una cosa fatta in vano, perché se, come dice Giuseppe, se a mesi di distanza, magari anni di distanza dall'inattività del canale, comunque c'è ancora gente che lo ferma, tu sei Giuseppe Saso, una cosa comunque lì per lì ti fa impressione, così come quelli che ovviamente ci hanno fermato a me, Marco e Giuseppe, chiedendo ovviamente di fare foto perché erano ascoltatori, ci seguivano. Io poi certe volte mi dispiace anche se magari sono stato un po' freddo, perché in realtà non sapevo proprio che di, cioè ero in imbarazzo più che altro, e dopo ovviamente mi hanno fatto, nel senso è stato un po' più naturale anche scherzarci e parlarci, insomma, quindi speriamo che comunque continuino ad ascoltarci tutti. Comunque scusa Giuseppe, vai. No, figurati. E poi come ultima cosa, insomma, rinnovo nuovamente appunto l'invito a seguire la pagina, condividerla anche, di questo podcast nascente che è L'Occhio del Beholder, in uscita nei prossimi giorni. Perfetto, allora salutiamo tutta l'organizzazione, tutto lo staff di Italian Podcast Network che ha partecipato in maniera insomma vivace e con entusiasmo a questa nostra spedizione che speriamo sia la prima di tante spedizioni che da tanto tempo non la facciamo. L'ultima risaliva ovviamente al Festival del Giornalismo di un paio di anni fa, con ben altri podcast chiaramente, però comunque è sempre stata una bella esperienza anche questa. Ringrazio Carlo Burinaga, che a volte si chiama anche Burigana, ma non sempre Burigana. Ma non sei, però ringrazio Carlo Burigana, hai ragione, scusa, è vero Carlo, scusami, perdonami, che non solo è per ora parzialmente entrato a far parte dello staff di DVL, poi probabilmente era fino a 2 minuti fa, ma adesso si è offeso, poi piano piano parteciperà anche, perché comunque lui c'ha anche un bel curriculum videoludico non indifferente, ma essendo un sound designer, un ingegnere del suono, ovviamente ci ha fatto omaggio delle nuove sigle, della nuova sigla che avete sentito e probabilmente anche dei nuovi jingle che sentirete anche nei prossimi episodi, quindi lo ringrazio insomma molto molto molto caramente, perché comunque è sempre gentile e si è sempre messo a disposizione. Grazie ovviamente Giuseppe Saso, Marco Giraldi e Marco Gualdi, Marco Giorgio, Antonio e Cesare, sì, anche Cesare Giraldi e Marco Gualdi, e ringrazio Stefano Paganini e Carlo Sant'Agostino, buttiamo lì dei nomi dai, ringrazio Roberto Bertoni e ringrazio anche Michela De Paola per il supporto che ovviamente ci ha dato. Questa è stata una bella esperienza per noi, insomma ribadisco, ci saranno sicuramente altre esperienze, abbiamo cercato di dare del nostro meglio e soprattutto di avervi offerto informazioni per quello che siamo in grado di poter fare. Detto questo, ci sentiamo alla prossima puntata di Dietrologia Videoludica. Posso ritornare ovviamente a occuparmi. Quale sarà la prossima puntata di Dietrologia? La prossima videoludica puntata che esce nel feed è quella che già avete ascoltato live e che molti ancora ci chiedono, perché ovviamente non tutti l'hanno ascoltata live, ed è quella sui giochi da paura o de paura. E poi ci sarà ovviamente, ci saranno due puntate particolari, una sarà la puntata su Beyond e l'altra su Existence, che è una puntata più prettamente cinematografica che e soprattutto segna il ritorno del Marrone, ricordiamo il sogno, il ritorno, del Luigi Marrone che ha voluto proprio questa puntata proprio perché noi abbiamo criticato il film di Cronenberg e lui si è un po' incazzato. Detto questo, signori, Marco, Giuseppe, ci sentiamo alla prossima puntata. Vi lascio con un ultimo brano, insomma, che abbiamo spiegato all'inizio perché il per come abbiamo messo questi brani, e abbiamo preso una band che conosciamo insomma da tempo perché è abbastanza famosa tra gli amanti ovviamente dell'8-bit e simila, che si tratta dei Pornophonic, e ovviamente non potevo che scegliere il brano Game Over. She has taken all my money. She has taken all my life. She gave me good times, she gave me bad times, and then she gave me her goodbye. There's no heart inside of her, she is just a slot machine. The most golden evil zombie bitch that I have ever seen. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover. Shadow of the man that I was before. So I beg for mercy, for an extra ball to play. One more life, only one more life, to face the trouble on my way. My game is over, I'm not a lover, I'm not a lover anymore. She said sorry, to the slot machine with token. They can fill the void within. Ciao amici! Welcome to Geronto Gamer! Mamma mia, che casino! Ma è possibile che pure oggi c'è sta tutta sta gente alla fiera? Che ci vuoi fa? E i giovani vogliono vedere giochi nuovi, di tendenza. Non si vogliono perdere l'ultimo trailer o demo dei loro titoli preferiti. Eh sì, ma ti ricordi quella volta che siamo andati a qua a Viera, lì a Coso, là a Milano? Ma alle tre, sì, è certo, certo. Che bei tempi. E poi c'era la presentazione, cosa, delle console di nuove generazioni. Ci stava la Xbox, cosa, Antani, la PlayStation, cosa, lì. PlayStation U. Bravo, bravo, la PSU. Che bello, sta in mezzo alle persone a far conoscenza. Tutti contenti, felici. E poi, sai, è sempre un piacere, no, frequentare ste fiere. Sì, sì, è vero, è vero. E ti ricordi quella volta che c'era pure la prova di quel caschetto che tu mettevi in testa e vedevi i giochi in 3D, coso, come si chiamava? Sì, mi ricordo, per nome mi sfugge, era Hocus Pocus. Bravo, bravo. Ma che è sta fila, che è sta roba? Qua c'è sta lo stand di Call of Duty nuovo, quello che si svolge nel futuro, che devi combattere coi razziatori. Ah, bello, bello. E fanno pure la prova della tecnologia nuova 3D virtuale di ultima generazione. Altro che caschetto, qua dicono che è proprio una rivoluzione. Oh, Simo, dai, andiamo a provare. Però prima vediamo come funziona, dai. Vabbè, sì, dai, dai, dai. Scusi, permesso, scusi, un attimo, scusi. Aspetta, qua si vede, Ma perché è stata a mettere una specie di pannolone a quello che sa fare la prova? Che ne so, ma che gli sta infilando un barculo? Ma che è questa la nuova tecnologia rivoluzionaria? Pare proprio di sì. Senti Simo, a me mi è passata la voglia. Eppure a me. Io me ne voglio andare. Quest'anno sta fiera fa pure schifo. Non c'è sta manco la stendista buona. Poi tutti sti ragazzetti che si fanno infilare i tubi al culo. Sta fiera mi ha proprio rotto il cazzo. E poi a me resta mezza la gente. Ma va manco di stacce. No, guarda, manca a me. Ah,